dicendo la roba. Giusto Luca. Perché c'era tutto bagnato. Simone Antonini. Sempre. Allegrezza Verdano. Con le maestranze con la sorella. Vallo Giuseppe. Giuseppe. Il sole Carmelita assente. Interlanti Laura. Gallo Salvatore. Spada Carmela. Presente. Vicina Giulia. Presente. Angelo Paolo. Presente. Cappellani Salvatore. Giardina assente. Stessa composizione. Nel frattempo con gli stessi scudatori per le consiglieri Allegrezza, Russo e Fangelo. Argomento numero 5, presa d'atto della delibera di giunta municipale numero 55 del 30/4/2015, avendo come oggetto di accertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Chiedo accordo alle tre sedute, una presa d'atto così come abilmente ci hanno già informato nella prima parte. No, non è una comunicazione allora, comunicazione al Consiglio Comunale per la conseguente presa d'atto della delibera del Giudice Municipale numero 55. Premesso che sulla comunicazione di cui è oggetto e conseguente deliberazione del Consiglio Comunale deve è chiaro che buonasera a tutti i consiglieri che ne vogliono prendere una cognizione in maniera puntuale di quella che è della presa d'atto, di quello che è parliamo così e il contenuto deliberativo lo possono fare perché gli atti sono depositati in segreteria, tra l'altro verranno pubblicati. Io in maniera diciamo così sintetica volevo comunicare che noi chiudiamo questo riaccertamento dei residui straordinari con un disavanzo di 1.054.000 euro. Questo disavanzo per le leggi verrà sostanzialmente ammortizzato nei prossimi 30 anni, a decorrere già dal 2005. Volevo anche invitare i miei consiglieri, perché avesse perplessità su questo numero, ad andare a verificare punto per punto quelli che sono i residui che sono stati oggetto di riaccertamento e comunque di reimputazione da un lato, di cancellazione dall'altro lato, distinguendo i residui attivi e i residui passivi. È chiaro che tutta questa vicenda gioca un ruolo fondamentale per questo comune, quelli che sono i residui scritti in bilancio per la partita estera. Quindi, si è andato a verificare sostanzialmente quel capitolo per quanto riguarda i residui attivi dell'ENAC, vi renderete conto perché ne siamo arrivati a questo disavanzo del 1054. È chiaro da pure che oggi, col senno del poi, possiamo dire che quei residui attivi ne vanno cancellati, in quanto abbiamo una sentenza che già va a quantificare le somme che sono in contraddittorio in questo momento tra la società Enel e il comune di Palazzo Legrete. Quindi nel fare il riscontro lo dovete necessariamente fare tenendo conto di questa sentenza e guardando i numeri della sentenza rispetto a quello che è scritto nell'ambito del bilancio. Questa è la considerazione più rilevante che mi sentivo di fare, che ritengo andava fatta a questo consiglio comunale. In merito a quello che è poi il commento politico della gestione, è chiaro da questo punto di vista che io faccio notare una cosa: ma se i numeri devono essere, allora diciamoli tutti nella cosa. Riaccertamento diciamo ordinario per esempio. L'amministrazione chiude con un avanzo di 4 milioni e mezzo. 4 milioni e mezzo di fatto non sono tutte diciamo un avanzo dell'ente, ma c'è anche compenso un'attività virtuosa da parte dell'amministrazione, come dire, detto in parole povere, qui spese folle non ne ha fatto nessuno, anche perché non ce n'era possibilità di fare la spesa folle. E quando parlo di spese folli, intendo dire che anche quella che è l'erogazione dei servizi primari è stata fatta con, una, con un sistema di prudenzialità nella spesa. Quindi è vero che non c'è stato un incremento o una revisione di quelli che sono i servizi erogati, ma è pure vero dall'altro lato che si sono continuate a erogare dei servizi che io posso definire qualitativamente discreti nel buono in base ai punti di vista, senza da creare una disfunzione dell'articolato nell'ambito della comunità. E guardate che non è cosa da poco, vi invito a girare la Sicilia, in quel poco che ho avuto la possibilità per motivi di riunione di girare la Sicilia, e purtroppo devo dire che è mortificante vedere che cosa c'è in Sicilia per le difficoltà che i comuni stiamo avendo anche semplicemente nella gestione dei rifiuti. Questa è una di quelle cose che vi invito a fare, e vi invito anche a vedere queste cose di persone, perché non sono cose che si vedono solo alla televisione, si possono riscontrare anche nei fatti e anche in quelle che sono delle realtà che apparentemente ne sono particolarmente gestite bene, ma solo apparentemente. In merito al discorso dei rifiuti, è chiaro che noi non vogliamo fare un'operazione di avvio come singola municipalità. Ci siamo investiti in un piano anche insieme all'Unione, e insieme all'Unione ne partiremo. Questo è quello che mi sento di dire, perché stiamo insistendo per partire tutti insieme, o comunque per partire una buona parte dei comuni. In merito al discorso degli interessi, non possiamo non tenere conto, perché altrimenti non siamo obiettivi nelle affermazioni, che nella regione, ve la voglio sottolineare, ma anche lo Stato, in quel poco che ci dovevamo trasferire nella regione, chiaramente le somme sono più rilevanti, non rispetta più le scadenze, ma non è che non le rispetta di qualche settimana, di qualche giorno, qui le scadenze sono saltate, non abbiamo più certezza di nulla, ma ve lo dico con rammarico, perché io mi sento in primo luogo siciliano, oltre a essere nel Palazzo dei Servizi. Questa cosa la dico con rammarico, che certe volte quando facciamo le proteste dell'Angine nelle varie sedi, io di questa cosa non ne vorrei neanche parlare, io come gli altri, perché c'è chi chiaramente lo fa per un proprio rendiconto personale, per una visione politica più ampia, c'è invece di chi lo fa per le necessità. Vi assicuro, e in questo eventualmente ne potete chiedere a chi volete da voi, che quelle che erano le scadenze canoniche di trasferimento delle trimestralità non se ne parla più, non esistono più di quello che è il saldo entro febbraio, il saldo dell'anno precedente, non esiste più nella scadenza di aprile, non esiste più la scadenza di giugno, non esistono più queste scadenze, sono solo scritte sulla carta. Sono scritte sulla carta, noi, e questo è un dato di fatto che potete andare a vedere, perché è certificato da quelli che sono i buoni di prelevamento, quella che è una buona parte dei trasferimenti regionali, la quota investimenti, visto che è distinto ormai in quota di spesa corrente e quota investimenti, la quota investimenti l'abbiamo presa a gennaio. A gennaio di quest'anno, stiamo parlando del lavoro investimento del 2014, quelle che sono i trasferimenti sulla spesa corrente, abbiamo avuto degli acconti, e il saldo ancora lo dobbiamo prendere sulla quarta trimestralità, mentre il saldo sulla seconda e terza trimestralità l'abbiamo avuto, se non ricordo male, da sempre a fine gennaio o prima di febbraio, e gli stipendi li continuiamo a pagare. I servizi di primaria li dobbiamo continuare ad assicurare, non possiamo creare le nostre disfunzioni. È chiaro che in questa circostanza a che cosa facciamo nel ricorso? Facciamo ricorso alla legislazione, perché anche qui, e chiudo perché poi non voglio fare discussione di che ne sembrano, e anche qui che cosa vogliamo imputare nell'ufficio del pubblico? Questo è un comune che non ha ritardo nella bollettazione, non abbiamo alcun ritardo nella bollettazione. Il ritardo che abbiamo è questa emissione delle bollette dell'acqua con l'anno di ritardo, perché noi lo basiamo sulla lettura, non facciamo il forfettario, ma è chiaro che con questo sistema di cassa saremo costretti a introdurre un principio di forfettarietà o comunque un pagamento forfettario come ormai fanno tutte le società. funzionare. Cioè le cose ce le dobbiamo dire come stanno. Eppure continuiamo a pagare la luce, anticipiamo la luce, continuiamo a pagare gli operai, la anticipiamo. Ma voi la dovete, vengono messi con l'anno di ritardo, ma perché con grande senso di onestà nei confronti della comunità e con grande senso di responsabilità, prima facciamo le letture e solo su quello che andiamo a leggere si deve fare la bolletta. Ma capite bene che in un discorso di nuova contabilità, di contabilità armonizzata in bilancio di cassa, questo non si potrà fare più, perché tanto spendiamo, tanto dobbiamo incassare, e quindi dobbiamo introdurre un principio del pagamento non forfettario, perché non è che abbiamo i contatori, diciamo, a lettura del terremoto. Un domani dobbiamo ragionare anche sui contatori come quelli dell'Enel, ma ancora non ce l'abbiamo. Queste cose alla fine fanno uno più uno, cioè si sommano, e sono soldi che il comune anticipa per continuare a garantire la continuità dei servizi, per continuare a erogare dei servizi. È chiaro che facciamo ricorso all'anticipazione di cassa, ma non può essere però detto o fatto capire che è frutto di una gestione disinvolta o di una gestione o di una negligenza. Per questo io nell'ufficio tributi ad oggi, col tipo di personale che hanno, posso che ringraziarlo, così come ringrazio tutti i settori, è chiuso per questo immane lavoro di riaggiornamento dei residui ordinari e dei residui straordinari, che secondo me non andava fatto in giro per questo modo. Cioè questo significa non avere il senso della realtà delle cose. Non andava fatto coincidere con la fatturazione elettronica, non andava fatto coincidere. Questo significa che chi è che ci amministra, chi è che ci governa, non ha il polso della situazione. E guardate che ci hanno messo tutti in difficoltà, dalle aziende più piccole che devono fornire ai comuni, alle aziende più grosse che continuano e devono continuare a lavorare con gli enti. Siamo tutti in difficoltà, compreso i dipendenti e gli amministratori che operano all'interno dell'ente, perché francamente in un processo di riorganizzazione è chiaro che poi tutti ne risentono, ma guardate che prima di sentirli purtroppo saranno quelli che sono all'esterno, perché si sono dovuti misurare con la fatturazione elettronica, si sono dovuti misurare con lo split payment, si sono dovuti misurare con tutta una serie di circostanze nuove che non andavano per forza di cose, per opportunità fatte coincidere, non andavano fatte nel coincidere. Quindi grazie per il lavoro fatto, ma soprattutto grazie per quello che ancora si deve fare. E non nascondo a nessuno che il bilancio quest'anno non sappiamo, ne dobbiamo portare due, ma non sappiamo come portarli, non sappiamo veramente come portarli. E in tal senso, se vi collegate sul Ministero dell'Interno e andate a vedere lo Stato quale gioco ha fatto dal 1 gennaio 2015 in termini di trasferimenti che equivalgono a zero, vi accorgerete che non solo non trasferiscono più le somme, ma se li prendono, se li prendono per mantenere i servizi indivisibili. Quindi tutti da quest'anno paghiamo più di quello che riceviamo, anzi pagheremo in anticipo, molto in anticipo. Ringrazio il signor Sindaco, consigliere Stefano. Volevo solo aggiungere che nessuno ha detto o sta sminuendo il lavoro del settore del tributi, anzi il mio era proprio che bisogna potenziarlo, perché già quello che fa il funzionario con due part-time è un po' riduttivo, anzi bisogna veramente, come dice lei, ringraziarlo e provvedere a potenziarlo maggiormente, perché come dice lei questo settore diventa importante, cioè questo ufficio diventa importante, già è tanto quello che fanno e quindi bisogna dargli un aiuto maggiore. Non è che il mio è un penalizzare o quant'altro. Poi come dice lei, sì, impegno, io non ho detto di spese folli, però è normale che i bilanci, come dei concepiti in quella maniera, con quel tipo di residui, è normale che andando ad equilibrare, voglio dire, le imposte, alcune imposte di bilancio non erano poi alla fine così, tra virgolette, no, veritiere, ma non c'era riscontro tra le entrate e le uscite, cioè le entrate erano, alcune non erano, come sono state comunque sbagliate, esigibili e quant'altro. Ma queste sono anche frutto di, stiamo parlando di problemi anche che fanno al 94, la storia del Veneto, quindi ce li ritroviamo. Io ad oggi quello che dico, noi paghiamo un certo debito, stasera siamo chiamati a una responsabilità maggiore per amministrazioni scelte, anche modi di fare finanza del passato. Purtroppo oggi noi ne rispondiamo, stasera noi, cioè la Giunta ne prende atto, ma noi siamo chiamati in casa e in campo per poter stabilire questo piano di niente. Lo scientifico ne prende atto, ma poi la responsabilità scientifica, ma poi chi dovrà decidere come rientrare, come spalmare questo rientro, se è il consiglio o sbaglio. E per legge, cioè, qui non è una responsabilità, ma lo sto dicendo, ma la responsabilità è nostra, noi un giorno comunque questa determinata scelta di spalmarlo in 30, 20, 10 è nostra. Se ci sarà qualcosa chi ne risponde comunque siamo noi, finiamo, poniamo fine comunque a un modo di concepire cioè di finanza e anche una gestione su come concepirli un po' così, che ha permesso tante di quelle cose. Abbiamo detto con franchezza. Ci sono altri interventi? Una cosa sola, Presidente. Non ha risposto Sindaco sul consulente per l'energia, perché mi sembra di aver capito che da quando abbiamo il consulente per l'energia, anziché risparmiare sui costi dell'energia, i costi sono lievitati. E se possiamo avere per una volta il piacere di vederlo qui dentro a riferire sul proprio operato. Questa è una cosa, insomma, che... Sì, è stato già chiesto... Ma l'abbiamo chiesto tante volte, Presidente. Allora, se non ci sono altri interventi, poco la votazione dell'argomento numero 5, presa d'atto della E allora andiamo all'attività ispettiva. Chi chiede di parlare? Posso? Prego. Allora, grazie Presidente, un attimo che prendo l'inizio perché... Io intanto volevo ringraziarla per aver concesso la registrazione della seduta, perché credo possa essere uno strumento utile anche per gli uffici, anche per evitare eventuali dimenticanze o qualcosa che magari può sfuggire. Io mi impegno Io mi impegno dal primo giorno utile a fornire un CD alla segreteria in modo che poi chi ne ha bisogno può utilizzarlo. Quindi, poi magari se riusciamo a istituzionalizzarla questa cosa penso che possa essere anche utile. Per adesso insomma io mi offro volontario per darvi questa cosa. E riguardo intanto all'argomento appena chiuso, io volevo rinnovare una richiesta che avevo fatto al sindaco quando si è parlato di Tari e Tasi. Avevo chiesto qual è la percentuale di evasori degli ultimi 5-6 anni. L'ho chiesto l'anno scorso, quindi direi 6 anni almeno per sommare quelli precedenti. Ancora non ho avuto risposta, quindi rinnovo questa richiesta. E poi ho delle interrogazioni da presentare. La prima ha per oggetto... Sì. Sì, perché lei mi disse in questo momento non ti posso rispondere perché non ho i dati in mano, quindi poi appena ce li ho, questo mi era stato detto. Sì. Va bene, ok, grazie. E allora dicevo, la prima per oggetto è randagismo. Facendo seguito a precedenti segnalazioni tendenti a riportare ordine e sicurezza nel settore, nell'ottica di ottenere misure per arginare e controllare il fenomeno e la diffusione di cani randagi e senza rifuggire dalla loro protezione nei termini di legge, si chiede alla Signoria Vostra formale risposta sui seguenti quesiti. Esiste un piano di censimento e quali, nel caso, le procedure adottate al fine di renderle il più ampiamente conosciute? Si sta predisponendo una mappatura sul territorio urbano ed extraurbano di Palazzolo per procedere ai dovuti controlli? Ha applicato nel territorio comunale la disposizione del 2010 del prefetto di Siracusa che invitava tutti i comuni, Palazzolo non escluso, a mettere in atto azioni concrete per favorire l'adozione a distanza dei cani randagi ed eventualmente la loro collocazione in altri rifugi? Quali i motivi che impediscono al comune di optare in favore di una delega per attuare le suddette azioni ad associazioni che operano sul territorio e che hanno a cuore il fenomeno? Nel merito di quanto appena richiesto, si chiede la risposta, riscontro formale, analitico e ben definito, onde evitare ulteriori quesiti sul tema. C'è un post-scriptum che dice: si conferma la volontà di suggerire all'amministrazione, tramite l'attività ispettiva, proposte per il Paese su problemi di interesse generale come quello appena citato, impegnandoci a voler riservare e richiedere direttamente ai tecnici comunali la soluzione di problemi legati alla gestione ordinaria, ad esempio tabelle, indicazioni varie, lampadine di illuminazione e votive. Ogni eventuale critica è da considerare come invito a ripercorrere le soluzioni più idonee. Vado avanti. Questa ha per oggetto la viabilità della strada provinciale 23. Fermo restante l'impegno assunto formalmente dalla signoria vostra di azioni di protesta clamorose assieme ai residenti e agli agricoltori interessati al ripristino della viabilità sulla strada provinciale 23, da alcuni anni chiusa ufficialmente al traffico, si chiede alla signoria vostra risposta formale per conoscere se ha rivolto formale sollecito al Dipartimento regionale di protezione civile per il ripristino urgente della provinciale, causa il progressivo deterioramento del tratto frenato che, nonostante il divieto, viene transitato con estremo rischio. Se intende realmente procedere ad una vigorosa azione di protesta, rendendosi promotore della stessa, indicando i tempi, i modi e i partecipanti. Anche qui c'è lo stesso post-scritto, quindi quanto sopra a conferma della volontà propositiva dei richiedenti, che tramite l'attività ispettiva intendono porre anche dei suggerimenti all'azione amministrativa. Questa ha per oggetto esperti esterni. Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione, articolo 23 del Statuto Comunale. Si interroga la signoria vostra per conoscere se nell'ambito delle materie di sua competenza, nell'arco di tempo dal 2013 ad oggi, ha dato incarico ad esperti esterni e se sì, per quale esigenza. In caso affermativo, lei si chiede dettagliata relazione sull'attività professionale svolta dagli esperti, previa indicazione dei requisiti di alta professionalità in ruolo possesso. Entrambi, sia a titolo gratuito che a titolo di consulenza. Vabbè. Questa per oggetto la rete di metanizzazione ed è un'interrogazione. Premesso che il comune di Palazzolo risulta ufficialmente dotato di rete per la fornitura di metano, preso atto tuttavia che la rete del servizio di erogazione non è stata estesa a tutti i cittadini richiedenti e che le imprese locali non possono utilizzare una preziosa fonte energetica alternativa a quella più costosa, sollecitati da alcune famiglie che lamentano l'assenza ad oggi dell'allaccio alla rete stessa e quindi prive della fornitura, nonostante abbiano avanzato regolare richiesta nei termini previsti. Considerando che il costo dell'allaccio non può e non deve gravare sui richiedenti, almeno per quanto attiene il tratto pubblico. Visto che il problema non emerge dalla lettura della sua relazione annuale, si chiede alla signoria vostra qual è lo stato dei fatti e la percentuale di copertura sul territorio urbano o periferico. Quali iniziative ha preso per garantire il servizio e il rispetto degli impegni? Quali e quanti solleciti ha rivolto alla ditta convenzionata col fine di garantire il completamento del servizio? Se intende chiedere chiarimenti alla ditta relativamente al non allaccio, soprattutto nel centro storico in favore di alcune abitazioni poco distanti da altre regolarmente fornite. Quali sono i tempi che l'amministrazione comunale prevede per il completamento della rete a favore dei singoli richiedenti e delle aziende locali? Se intende, con l'avallo di questo Consiglio Comunale, intimare termini perentori alla ditta sul rispetto dei termini ed impegni reciproci già in convenzione tra le parti. Su quanto sopra la si invita infine a fornire ai cittadini ogni utile informazione sui tempi e il grado di completamento della rete, utilizzando ogni mezzo di comunicazione, stampa, avvisi, manifesti, volantini, eccetera. Anche qui la stessa formula in post-scritto. Questo ha per oggetto l'organigramma comunale. Preso atto che l'organigramma del comune, anni addietro, si è ampliato con la presa in carico sul bilancio comunale di ex articolisti e ASU, constatato che la decisione assunta dall'amministrazione Nicro di fatto determinò la rinuncia alla compartecipazione dei pagamenti da parte della Regione, Considerata la progressiva fuoriuscita del pensionamento di personale di ruolo già avvenuta per l'ufficio turistico e protocollo ed in definizione nell'anno in corso nel 2016 riguardante ruoli importanti degli uffici personale, servizi demografici, ragionerie, ufficio tecnico e acquedotto, preso atto che nei casi di pensionamento già avvenuti l'amministrazione comunale non ha adottato il metodo del progressivo passaggio di consegne trasferendo le funzioni al personale rimasto, preferendo accorparle invece alla responsabilità e competenza di altri uffici. Valutato che la progressiva fuoriuscita di altri dipendenti, in numero abbastanza considerevole, in settori ed uffici importanti, è tale da suscitare allarme concreto, superabile solo tramite una pianificazione attenta e con soluzioni appropriate tali da consentire un'attività ordinaria e lineare negli uffici. Tenendo conto della situazione odierna e delle prospettive e rivendicazioni future della fascia relativamente più giovane, costituita dagli ex MSU e dagli ASU, considerato che non tutti svolgono attività lavorativa a tempo pieno, vittime in questo caso della malapolitica e dei favorismi vari, e che per la loro fascia contrattuale A e B non potranno sostituire il personale via via in pensione se non abusivamente, svolgendo lavori di cui sono capaci ma dei quali non possono assumere la titolarità. Visto infine che l'amministrazione comunale ha superato a quanto pare i blocchi su nuove assunzioni, sottoscrivendo contratti a tempo determinato triennali in favore almeno di due unità, con una triplice serie di interrogativi per tipologia contrattuale. Io distingo ora tra dipendenti di ruolo, dipendenti ex MSU e ASU e dipendenti a tempo determinato. Per quanto riguarda quelli di ruolo, preso in considerazione l'organico attuale, si interroga la signoria vostra per conoscere se l'amministrazione comunale ha programmato un piano di intervento che prevede la progressiva sostituzione del personale che andrà a breve in pensione. Se nel merito, trattandosi di piccolo comune, superando la logica dei livelli in uscita, intende affidarne i compiti e le responsabilità al restante personale di servizio, consentendo una crescita professionale e di merito e, ove possibile, avanzamento di carriera, in presenza di requisiti ed esperienza certi. Se sono ancora reperibili risorse del bilancio comunale utili ad eventuali esigenze del ricambio, o per completare gli orari al personale a tempo parziale. Per quanto riguarda i dipendenti ex MSU e ASU, considerate le legittime aspettative degli ex MSU e ASU in forza al Comune, rilevato il cospicuo numero di operatori a carico esclusivo del Comune stesso, escluso che i dipendenti di ruolo in pensione possono essere sostituiti da dipendenti appartenenti a questa tipologia, per differenza di livello o comunque per stato giuridico, se non per minima percentuale consentita da riserva in caso di apertura di eventuali concorsi pubblici, quando e se potranno essere banditi. Si interroga la signoria vostra per conoscere se le casse comunali, dopo l'impegno assunto dal suo predecessore, sono in condizione di garantire certezza lavorativa e, conseguentemente, economica a detti lavoratori e dalle loro famiglie. Se risponde al vero che le casse comunali non sono in grado di reggere il costo di tanti giovani diventati negli anni adulti e con famiglia. Chiarisca quindi il dubbio che circola ed allontani i timori. Quali interventi ritiene attuabili in prospettiva per garantire tranquillità e serenità lavorativa a persone che per anni sono state vittime di una precarietà voluta e sostenuta da una politica del lavoro ingiusta e probabilmente costituzionalmente illegittima? Passo ai dipendenti a tempo determinato. Alla luce delle difficoltà economiche, considerato il personale in servizio nelle due tipologie sopra evidenziate, si interroga la signoria vostra per conoscere se in atto risulta assunto personale con contratto a tempo determinato e quale, nel caso, la necessità di provvedere con personale esterno. Qual è il profilo lavorativo per l'attività richiesta in cui è impegnato il personale a tempo determinato e se il profilo stesso non era riscontrabile nell'ambito di competenze ed esperienze in capo al personale già in servizio. Come giustifica un'assunzione di lunga gittata con la presenza di personale a tempo parziale legittimato al completamento dell'incarico fino al tempo pieno? Quali le competenze del dipendente a tempo determinato per rendere esclusive e senza concorrenza? Si richiede risposta scritta. Anche qui, con la presente, si conferma la volontà di porre in essere problemi ritenuti importanti per la cittadinanza. Già? C'è una deliberazione Va bene, poi quando... Va bene. Perché poi ci sono tutta una serie di considerazioni su cui lei non fa dei passaggi chiari, ma da punto di sponsor. Vabbè. Cioè, se le casse comunali ne hanno... Ma le, è un'affermazione talmente generica, come la posso rispondere? Se lei c'è un passaggio e la rilegge di nuovo, si rende conto che non lo posso rispondere? C'è un timore diffuso tra la cittadinanza e soprattutto tra alcune persone che si trovano in queste condizioni, che sanno che il comune ha già i problemi, l'ha appena detto anche lei, è chiaro che i primi che ci vanno sotto sono quelli che hanno tipologie. Anche tra quelle altamente determinato pare che anche il timore di non poter essere mantenuti. No, questo mi pare che non l'ho detto. Se lo legge si rende conto che è così. Perché nel distinguendo, in una prima fase dice se le casse comunali sono in condizione di dare sicurezza al personale a tempo determinato e poi no, no, tempo determinato. Allora posso tornare io, ma mi pare di aver capito. Vabbè, poi comunque quando mi rispondo. Vabbè, poi lo leggerò certamente. Allora vado avanti, passo alla raccolta differenziata. Sulla raccolta differenziata di cartoni, plastica, vetro e materiali commercialmente pregiati, intesa in questo comune solo come smaltimento disinteressato, cioè senza guadagno, occorre richiedere dovuti chiarimenti. Il comune formalmente la realizza con convenzioni con ditta interessata, periodicamente rinnovate. Ditta fortemente interessata, il caso di dire. Incomprensibile e dispiegabile il sistema di gestione della differenziata nel nostro comune. In quanto non basta smaltire, cioè allontanare dall'abitato, materiale pregiato come cartone, alluminio, legno e plastica ed altri oggetti erroneamente considerati semplici rifiuti e non ricchezza. Non basta allontanarli dal nostro territorio, almeno occorrerebbe sfruttare al massimo ogni opportunità di guadagno per le casse comunali e conseguenti agevolazioni per i cittadini conferenti. A seguito di queste convenzioni e accordi, con la ditta specializzata, rinnovati semestralmente, la stessa si impegna a riunire in giornate prefissate. Il comune, a capire bene, paga il 50% del servizio, mentre il restante 50% è coperto dal guadagno che la ditta recupera dall'uso e riuso, è il caso di dire, dei materiali a nostro avviso pregiati. La gestione, dopo la raccolta, genera un indotto che porta lavoro e guadagno a ditte che operano in direzione del riuso e riciclaggio dei materiali ricevuti. E di conseguenza genera guadagni certi e probabilmente non controllati per la ditta convenzionata con il comune. In maniera lineare ed organizzata, partendo dalla differenziata, si mette in opera un commercio che produce ricchezza per tutti i compagni della catena, ad eccezione del nostro comune. Questo è il frutto di un accordo sulla bontà del quale occorrerebbe riflettere, in funzione di un nuovo accordo che assegna al comune di Palazzolo un ruolo attivo e non passivo come l'attuale. Il comune infatti gestisce la differenziata come cosa non propria, di conseguenza non passa dal bilancio comunale. Non trova in evidenza nel bilancio comunale le fonti di introito legate alla differenziata. Restano racchiuse in oscure, anche se formali, convenzioni sottoscritte in forma associata e rinnovate a scadenze periodiche. In tempi di tagli sempre più incisivi e di ricerca di fondi per servizi essenziali, sempre più carenti, è impensabile che tanta e tale potenziale ricchezza escluda il comune da un diretto giovamento. Non ci si può limitare ad una semplice compensazione dei costi. Il guadagno, che è sempre incontrollato nei limiti, è della sola ditta convenzionata e delle sue appendici. Sembra il perpetrarsi, anche se in forma associata, di una forma antiquata di baratto. A chi giova questo sistema? A chi è giovata all'atto della sottoscrizione della convenzione? La svendita, pare, di materiale pregiato fa pensare realmente al baratto. Cosa ha ottenuto il comune in cambio? Posti di lavoro? Se sì, è un bene per qualcuno, in ogni caso non per i cittadini palazzolesi condannati a subire crescenti percentuali di tassazione sui rifiuti. Per quanto sopra, si chiede alla signoria vostra quali i tempi per chiudere questa catena assurda di rinnovi senza variare le condizioni originali in favore del comune. Quali i motivi che impediscono all'amministrazione di inserire in bilancio risorse e fonti di guadagno? Se intende seguire l'esempio di comuni virtuosi come Zafferano e Tenea, quale esempio mirabile su quello che la differenziata può rendere, se saggiamente e disinteressatamente gestita. Se sua invenzione promuove il cemellaggio cosiddetto comune, in prospettiva rifiuti zero entro il 2020, o quantomeno un incontro con i suoi amministratori sulle esperienze di sviluppo a carico della raccolta differenziata. Si chiede risposta scritta e anche qui di nuovo si rinnova lo stesso prospetto. Concludo con le ultime. Questa ha per oggetto l'impianto biogas di Timba di Corvo. Al punto 8 del verbale di sopralluogo effettuato dai tecnici del libero consorzio comunale lo scorso settembre presso la discarica dismessa di Timba di Corvo si legge: la discarica è provvista di impianto per il coinvolgimento del biogas, impianto che alla data odierna 16/9/2014 non è stato mai attivato. Questa è una citazione del verbale. Nella documentazione intercorsa tra l'UPC e il decimo settore del consorzio, fino all'ultima comunicazione in nostro possesso datata 10 febbraio 2015, non si trova ulteriore traccia relativa all'impianto riscontrato in discarica. Per questo motivo e per l'importanza e il valore che un impianto di biogas riveste e può rivestire, considerato che, da quanto letto, si evince che l'impianto stesso è di ritenersi completo, si legge esattamente la discarica è provvista, anche se si specifica non è mai stato attivato, si chiede alla signoria vostra di dare formale riscontro ai seguenti interrogativi: quali le fonti di finanziamento dell'impianto durante dei lavori di costruzione dell'impianto con inizio e fine, ditta titolare dei lavori, titolare del collaudo, riferimenti relativi ad eventuali osservazioni o contestazioni e quant'altro riferito al leader di costruzione, motivi per i quali l'impianto non è mai stato attivato e quali effetti positivi o eventualmente negativi determinati dalla messa in funzione dell'impianto. La presente richiesta viene rivolta garantendo anche una disponibilità alla collaborazione affinché sia riscontrata ogni opportunità che determini l'uso e il funzionamento dell'impianto. Secondo lei quali possono essere gli aspetti positivi dell'impianto? Visto che vorrei comprendere un attimo. Si collega al discorso di prima, ovviamente. Il funzionamento di un impianto di biomassa credo che serva a produrre ricchezza da quello che noi consideriamo qualcosa di cui liberarci. Vabbè, comunque poi. Ma siccome mi fa piacere, però vorrei comprendere su quale livello, perché da questo punto di vista ovviamente non lo comprendo. Questa è una cosa che leggendo il verbale ha incuriosito, perché non se ne è mai parlato, non si capisce perché. Questo. Io non sono tecnico. Che lei si riferiva all'aspetto ambientale, invece ho capito che è l'aspetto economico. No, è l'aspetto perché c'è un impianto che risulta presente, cioè funzionante, finito quantomeno, e però non funziona, quindi volevo capire perché. Cioè, poi è chiaro che se funzionasse sarebbe una cosa buona. Allora, vado a concludere. Questa è una proposta che ha per oggetto la promozione dell'attività agricola. La presente, per dare un seguito compiuto al riferimento citato nella sua relazione annuale e che, indubbiamente, se curato e seguito, può dare uno sviluppo diversificato all'attività agricola in termini di promozione e diffusione della produzione locale di qualità, cita la collaborazione con la condotta Slow Food di Siracusa, con la sezione di Palazzolo e con ristoratori locali nella produzione di un opuscolo informativo sul tartufo europeo, divulgato nel corso di un convegno sul tema tartufi cultura tenutosi presso la Casa Museo. Tra gli invitati speciali, alcuni professori delle università degli studi di Catania e Palermo, interessati, si legge nella sua relazione, ad avviare un percorso di verifica in laboratorio sulle peculiarità anche nutrizionali di questa importante risorsa del territorio. Nell'ottica della promozione dei prodotti locali, la collaborazione e l'eventuale impegno economico per la partecipazione all'evento sono da ritenersi validi e costituiscono le basi di un investimento di sicura prospettiva economica per il Paese. Ciò premesso, considerato che il tartufo degli Iblei, campanilisticamente chiamato con vanto di Palazzolo, è apprezzato oltre provincia e comincia ad avere rinomanza in ambito regionale nelle sue due varietà più diffuse, Bianchetto e Scorzone, si chiede alla signoria vostra se l'interesse espresso dai professori universitari ha avuto un seguito dopo l'enunciazione di impegno, riferendo sui risultati eventualmente conseguiti o e comunicati. In caso negativo, se intende promuovere autonomamente uno studio in merito. Se, nell'ottica della sempre crescente diffusione del prodotto, apprezzato dalla ristorazione locale, nell'ambito della promozione turistica e della ricerca di nuove iniziative agricole, intende accettare la proposta di organizzare gli incontri necessari perché il tartufo possa essere un'alternativa alle tradizionali produzioni agricole del territorio, complementare a quelle in atto praticate, in quanto occorrono parecchi anni per una produzione di tartufo intensivo. Se, considerata la tua esperienza personale a livello lavorativo, possono esistere criticità che siano di impedimento all'avvio di una produzione a regime. Questo è l'ultimo. Questa ha per oggetto richiesta di commissione di indagine e di inchiesta su alienazioni e valorizzazioni immobiliari, articolo 17 statuto comunale, commissioni consigliari straordinarie, temporanee e speciali. Ai sensi dell'articolo in oggetto si chiede alla Signoria Vostra di sottoporre a deliberazione del Consiglio la proposta di istituzione di una commissione di indagine e di inchiesta su tutte le alienazioni di immobili e terreni di quella delibera consigliari numero 52-2013, numero 45-2014 ed altre precedenti attinenti alienazioni e valorizzazioni immobiliari. La commissione speciale, temporanea e straordinaria dovrà funzionare nei limiti di tempo di intervento fissati dal Consiglio stesso e dovrà presentare allo stesso apposita relazione del Presidente ed eventuale relazione di minoranza. Per quanto riguarda gli oneri economici legati alle sedute, i sottoscrittori della presente dichiarano, sin d'ora, di rinunciare ad eventuali compensi e gettoni se spettanti. La richiesta in oggetto è ritenuta urgente, per cui si chiede di inserirla all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Ora avevo solo un'altra richiesta da fare verbalmente e poi mi siedo. Volevo sapere se risulta operante nel territorio di Palazzolo una cooperativa dal nome Progresso Ibleo. Volevo sapere se questa cooperativa ha dei rapporti con il comune e quali sono eventualmente i compiti. Sì. Questa cos'è? No, no, è una richiesta verbale. Una sì. Progresso Ibleo esiste, ma non ha nessun rapporto con il comune. Non ha nessun rapporto con il comune. Sono quelli che sono entrati con la legge del 2000 e che si è l'SU e fanno il servizio alle richieste. Non è una piccola richiesta. Il comune non c'entra niente, è una cooperativa di mobili direttamente dalla regione. Ok, allora, vabbè. Sì, ci sono altre interventi? Prego, consigliere. Riuscite a non abbia l'occhiato? Grazie, presidente della parola. Un saluto al signor sindaco, a lei presidente e ai consiglieri, dopo che ha praticamente 3 mesi che non ci vediamo. Oh, in questa sede. No, affettuoso senza. Quindi, va, devo non ci vediamo. Scusi consigliere, posso dire fatto perché io per una cosa che io devo mettere a conoscenza del Consiglio Comunale, che praticamente noi ci vediamo quasi sempre. E un giorno mi ha detto, guarda, devo fare il Consiglio Comunale, ho parlato con Nadia, lo decidiamo, tutti d'accordo, che domani ci punto l'articolo giornale. Ma sono figlio mio. Ma come stai combinando? Perché me lo devi dire? Perché quella è gioco. Ma perché fa questo? È un monellaccio. Sei un monellaccio. Presidente, ora, dopo giustamente 3 mesi, ecco perché ci siamo dilungati con Fangello 14.000 interrogazioni. Io alcune non le ho presentate oggi perché ce n'erano altre. Quindi, Presidente, se può convocare il prossimo consiglio a breve, così almeno. Se passiamo dai miei, adesso devo parlare seriamente, il Consiglio Comunale va convocato tutte le volte che c'è, ci sono certo. Alcune, anche perché chiaramente c'è una spesa, e poi se lei conosce bene il regolamento consigliare, c'è una porzione di consiglieri possono richiedere la convocazione, perché certo. Non l'avete richiesta. E perché non siamo dei nemici? Eh? Non siamo dei nemici, Presidente. E quindi non lo possiamo se io non avevo argomenti da portare mi sembrava inutile convocarlo. noi, cioè, almeno io non sono tecnico, forse qua ci sono gli altri, saranno indubbiamente dei tecnici. Beh, ma io non sono tecnico. No, io volevo un chiarimento dal sindaco, presidente, perché il sindaco nel lontano 20 febbraio del 2015 mi ha risposto ad una mia interrogazione. Qual era l'interrogazione? Il problema di staticità di via D'Alfergo. E nella risposta che mi ha dato il sindaco giustamente mi dice... Allora, nella risposta data dal sindaco mi dice: premesso che l'interrogante non ha alcuna competenza e un ruolo per stabilire date e individuare i responsabili di eventuali danni a persone o cose. Sindaco, io non ho detto né che sono competente né che sono praticamente posso praticamente stabilire chi sono i responsabili che devono andare ad individuare queste cose, ma io da cittadino in primo luogo, in secondo luogo da consigliere, le ho fatto praticamente questa, le ho chiesto praticamente questo quesito, perché in quella strada c'è un problema praticamente dal 1990 e non mi sono spiegato come mai dopo praticamente 25 anni ancora sussiste questo problema. Allora io penso che il problema può sussistere per due motivi: o perché ci sono giustamente delle motivazioni di carattere tecnico, o ci sono degli interessi. Perché se no un comune, un ufficio tecnico, non un comune, perché non mi rivolgo a lei, signor sindaco, mi rivolgo praticamente ai tecnici che stanno praticamente nei piani alti, che hanno praticamente il dovere di andare a mettere a fuoco i vari problemi tecnici che ci sono in giro per il paese. Cioè, come mai praticamente in 25 anni tutto dorme ed è ancora tutto come fu quella famosa sera della notte di Santa Lucia, cioè è ancora tutto, è rimasto in quelle condizioni. Allora, signor sindaco, io la risposta che lei mi ha dato mi ha veramente sconfortato, perché ho detto: ma un sindaco praticamente forse non ha capito quello che io volevo dire. Io volevo dire che praticamente, caro sindaco, abbiamo in questo comune un ufficio tecnico. Lei è stato così solerte a, praticamente per una questione economica, a levare praticamente quando la dottoressa giù del comparto turismo è andata in pensione, a non ricambiare praticamente il posto, perché dice: dobbiamo risparmiare questo. Sindaco, presidente del consiglio, ma vogliamo prendere dei provvedimenti per questo ufficio tecnico di questo benedetto comune che non funziona e oltre a non funzionare non è, fa sperperare praticamente denaro? Ecco qual era la domanda, sindaco. Il proprietario dell'immobile perché se ne era persa traccia o comunque non lo provava a precedere. stato diffidato ed è stato assegnato un termine. Ora, perché il termine sia decorso o non sia decorso non me lo ricordo, ma visto che questa cosa sta ritornando, è chiaro che da lunedì verificherò se il termine è decorso in un momento e il comune si dovrà attivare per poter fare l'intervento sostitutivo. Questo è però allora veda praticamente sempre con il responsabile di quell'ufficio che già diffide a quel signore, ma sono state fatte già tre fino a oggi, quindi praticamente mi sembra che sia una cosa pochettino che trovo il tempo che trovo volevo qualche risposta io dell'assessore Sandro, perché trascorso praticamente tutto altri 60 giorni da questo bel carnevale che abbiamo avuto quest'anno, se l'assessore Sandro mi chiariva determinate situazioni, ma oltre, cioè l'assessore Sandro in parte, poi me lo deve chiarire praticamente anche il sindaco, ma è dal sindaco poi rispetto con la risposta scritta, e anche il comandante dei vigili urbani. La leggo subito e riguarda praticamente il pagamento delle aree di sosta e pedaggio di ingresso per la manifestazione del Carnevale 2015. Nelle giornate della manifestazione del Carnevale 2015, nel circuito di passaggio dei gruppi in maschera, era vietata la circolazione di veicoli. Tutti gli ingressi all'area abitata erano chiusi al traffico con transenne sulle quali era posto un cartello con la seguente dicitura: Comune di Palazzo Vercelli, Carnevale 2015, area di sosta numero, parcheggio a pagamento euro 1,50, ordinanza numero 10 del 10/2/2015. Nell'ordinanza venivano individuate 4 aree di sosta: Viale Tanta Lighiere, Piano Aria, Largo Senatore Italia e Piazzale Fontana Grande. L'interrogazione la faccio praticamente al sindaco, all'assessore alla protezione civile e al comandante della Polizia Municipale per sapere chi era il personale incaricato alla riscossione e in che modo avveniva la stessa. Se il personale era dotato di contrassegni identificativi, chi aveva l'obbligo di verificare quanto riportato nell'ordinanza numero 10? Sindaco, la domanda nasce perché, mentre lei nell'ordinanza che ha fatto individuava praticamente le 4 aree, invece le transenne si trovavano praticamente in tutta l'altra zona, si trovavano praticamente all'entrata del paese vicino praticamente il rifornimento Agi, si trovavano praticamente in via Giuseppe Fabbri, si trovavano praticamente in via Corleone, persino ai residenti veniva chiesto 1,50 euro e ad alcuni veniva chiesto anche 2 euro. La cosa è sembrata un pochettino strana, infatti dico la devo andare a vedere, però ho visto che lei nell'ordinanza ha specificato le aree, cosa che praticamente questo personale che è in giro invece ha praticamente portato le aziende da tutt'altra parte e ha fatto pagare anche i residenti. Infatti c'è stato qualcuno che ha detto che io gli ho dato 10,50 euro per levarlo, anche con il ricatto questa situazione è avvenuta. Quindi la prego, signor sindaco, di vedere quello che è successo quando è andata la risposta. L'altra interrogazione interessa sempre l'assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile, l'assessore non si tenga la testa, che non cade, e al comandante del corpo della polizia municipale. La problematica riguarda praticamente il viadotto di Cava Cancoro. Consigliere, per me è un consigliere grande perché è impegnato con uno consiglio comunale, quindi ringrazio sempre per il lavoro. Il dottore Grande ha questo doppio lavoro. Prego. Alla luce degli ultimi gravi problemi verificatisi nelle strade della nostra Sicilia e soprattutto nelle immediate vicinanze del nostro comune, porto a memoria le due strade provinciali da Palazzolo per Giardana, chiuse al traffico veicolare per frane e smottamenti. Sul territorio di Palazzolo ricade il viadotto in oggetto, di proprietà comunale e di grande interesse viario per il collegamento della via Antonino Uccello alla statale 124, giornalmente transitato da numerosi autoveicoli e autotreni che trasportano elevate masse di carico. La struttura del viadotto in oggetto, in calcestruzzo e ferro, risulta in alcune parti in evidente stato di usura. Il guardarail risulta divelto in più punti con pericolo per la circolazione. Si chiede di conoscere la data ultima dell'intervento manutentivo alla struttura, se mai effettuato. Di conoscere se è effettuato l'esito della perizia alla struttura, se sono previste da parte dell'ufficio tecnico comunale opere di interventi per il ripristino delle barriere laterali, delle reti di protezione e della segnaletica orizzontale. Se si reputa opportuno da parte del comandante della Polizia Municipale moderare ulteriormente la velocità sul tratto in oggetto per i mezzi pesanti. Se è stata formulata all'ANAS la possibilità di cessione dell'opera e il relativo riscontro formulato dalla stessa. Peccato che se ne è andato il segretario, Presidente, perché questo ci guardava a voi. Problematiche dell'abusivismo edilizio nel territorio comunale. Il problema dell'abusivismo edilizio è stato più volte accennato nei consigli comunali convocati in questa municipalità, ma non si è arrivato mai ad una risoluzione dello stesso. Solo il direttore generale di questa municipalità ha risolto il problema con l'addizione. Nessun caso di abusivismo è presente in questo comune. Questo qua è il report trimestrale che manda praticamente alla prefettura il direttore generale. Segretario. La zona C2 riporta nel piano regolatore approvato da questo comune e prevede edilizia a rada, lette isolate o a schiera con indice di fabbricabilità dello 0,50, numero di piani 1, eccetera. Rapporto massimo tra superficie edificabile e area frontaria di 2 decimi. Da verifiche effettuate nella zona di via Martire di via Fani, zona C, subzona C2, sono presenti immobili, caro assessore, di nuova costruzione o in costruzione, dove è dubbia la corrispondenza alle regole previste nel piano regolatore. Io non sono sempre un tecnico. Vabbè, il tecnico è lei e tutto l'ufficio tecnico. Andate a verificare, assessore, se quello che dico io praticamente corrisponde a verità. Oppure sono sogni che stanotte mi sono venuti in testa e li ho messi su carta. No, è sindaco. Io sa perché dico questo qua, quando ho detto l'assessore, perché praticamente l'assessore forse sa come è stata strutturata la situazione. Lo sta interrogando da tecnico. Da tecnico, io non sono un tecnico, lui è un tecnico, quindi mi può dare una volta praticamente nelle mie dichiarazioni. di conoscere se nella zona di costruzione di detta via sono stati eseguiti rilievi al fine di verificare la sussistenza di abusivismo edilizio, di conoscere se i cittadini hanno presentato esposti ai seguenti uffici tecnico, urbanistico, a comando di polizia municipale. Se sì, di conoscere quali accertamenti sono stati eseguiti e se sono state trasmesse notizie del reato alla Procura della Repubblica. Di conoscere se l'ufficio tecnico ha mai svolto attività di verifica prima del rilascio della concessione edilizia, durante l'esecuzione e alla fine del rilascio del certificato di fine lavori. Di conoscere il numero degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale inerente all'attività di abusivismo edilizio nel perimetro urbano ed extraurbano. Quindi non è relativo solo alla mia parte di chiamare, è tutto il territorio. Che poi non mettete, perché poi assessore, della problematica qual è? Che poi mi risponde sempre il sindaco. Poi mi risponde sempre il sindaco, almeno lei una firma nella risposta del sindaco, ce la mette. Vabbè, quindi sia praticamente nel perimetro urbano sia nel perimetro extraurbano. Servizi igienici automatici. Sembra lei assessore del sindaco, ma una cittadina come Palazzolo, proprio patrimonio dell'umanità, uno dei borghi più belli d'Italia, ancora oggi nell'anno 2015, ha un servizio igienico fatiscente, posto in una zona centrale come il piazzale delle Poste. La zona dove è ubicato il servizio igienico non funzionante ha subito negli ultimi anni un notevole cambiamento che costringe gli automobilisti e i pedoni ad un continuo pericolo. Si chiede di smuovere l'ubicazione dell'attuale servizio igienico non funzionante, di ripristinare la sede stradale al fine di renderla più sicura agli automobilisti e ai pedoni, di eseguire un nuovo acquisto di servizio igienico autoplende da collocare nelle immediate vicinanze del preesistente. Guardi, le posso dire una cosa, la condivido pienamente, il problema è che non hanno avuto i soldi. Vabbè, se no intanto su un tavolo, cioè leghiamo da là. Abbiamo pensato 5 anni fa, leghiamolo da là perché è uno scempio, è uno scempio. Parla così, ma c'è un investimento. Però Sanna, non sono convinto del sistema di servizi autopolente, anche perché il risultato è solo no, ma ora ce ne sono ce ne sono di nuove, quindi può essere che anche con prezzi abbastanza affordabili. No, se lei si ricorda c'è qualcuno che nel bagno si apriva la porta. Quindi sono cose che ne abbiamo vissuto molto bene. Assessore, nota dolente questo carnevale, ma sembra delle risposte per cortesia, più che altro sono delle risposte per sgombrare la mia mente da questi pensieri proprio che sono dei turbini. Ma me lo dice una cosa, ma come mai praticamente sti carri in corso Vittorio Emanuele sono rimaste là ferme e sembravamo praticamente a Beirut dopo il bombardamento? Forse queste cose le ho notate solamente io, assessore, lei non le ha notate perché lei era praticamente a letto con la febbre, se non sono tornato. No, mi aveva avuto la forza, la capacità di farlo notare anche ad altri, perché se non ci fosse stato un atto autolesionistico dei palazzoli se stessi a pubblicare certe fotografie su Facebook, Salvetti, a pregare amici e amici degli amici per avere un articoletto sul giornale, o semplicemente era un'operazione che si voleva concludere anche là. Io le faccio notare che quest'anno, grazie a questa operazione, abbiamo avuto due giornali di carnevale che con nessun'altra formula sarebbero riuscite ad avere, perché non se ne poteva fare carnevale, perché c'è stato un mese di pioggia ininterrotta. Con questa forma siamo riusciti a fare il sabato e la lunedì, che il lunedì non si sia potuto fare perché materialmente non abbiamo avuto il tempo di spostare gli altri, perché come già ha chiesto il sindaco, c'era stato una riunione con i carristi. Per dire quindi, il martedì non si farà sicuramente nulla perché non siamo nelle condizioni meteorologiche di poter fare il carnevale, per cui vi invitiamo a spostarvi repentinamente per cercare di recuperare in questo momento non andare più avanti. I carri erano quelle dimensioni, avete visto tutti, è inutile che ce la spendiamo dietro un dito, è inutile che diciamo vai i carristi. Scusa assessore, è lei che si nasconde dietro un dito però, perché sì. Noi già da Illo Tempore avevamo già detto che questa qua era una cosa che non andava bene. No. L'unico a dire che andava bene era lei. No. Però poi quando la si è consigliato. Io una delibera del Consiglio Comunale con 13 consiglieri che hanno votato favorevolmente a questa formula della canale. Più le attività commerciali, più i rappresentanti del quartiere. Cioè è stato una decisione condivisa, studiata e su cui dicevano dell'adesione per una parte della popolazione. Se non siamo tutti delle condizioni che quando le cose riescono inizieranno, detto era prevista e sarà questo tempo a fare, quando non riescono e allora diventano una colpa anche che piove, le faccio notare le stesse difficoltà, pur avendo il patrimonio, pur avendo le strutture, pur avendo le strade, l'hanno avuto la CDA. Che un carnevale si è consolidato e non l'hanno potuto fare perché hanno avuto danni, gli stessi danni, benché si pubblicano, dopo si scende anche a Mezzucci, che si rubano la fotografia del sabato, della domenica, e dopo si dice a Tavola la festa sta continuando, a Tavola la festa non è finita, anche a Tavola, chi c'è stato il più fraggio, anche a Tavola. Quindi se ci vogliamo prendere in giro, noi siamo liberissimi. Ho parlato di palazzo. Se dopo alla fine iniziamo un minimo di obiettività, lei che pensa? Che io ero contento di quelle serate, che avevo una responsabilità di tutto quello che stava succedendo in giro e l'impossibilità di agire diversamente. Lei cosa avrebbe fatto? Ma scusi, lei in condizione, lei come persona. Allora, assessore, lei rappresenta, e questo gliel'ho detto più volte, e glielo continuo ancora a ripetere. Lei rappresenta l'assessore al turismo di questo comune, quindi, non può dire che lei non sapeva oppure la colpa è stata dei carristi o lo consiglio comunale dei vecchi che ci hanno dato. Lei queste cose a me non me le deve dire, perché io le dico una cosa, che a sapere le dimensioni dei carri, lei era l'unico, insieme ai carristi, perché tutti gli altri non lo sapevano. Quindi la spregiudicatezza dell'operazione, qual è stata? No, ho la certezza di dirla che questa dimensione dei carri non lo sapevano nemmeno i carristi. Allora, assessore, le dico, la spregiudicatezza dell'operazione qual è stata? È stata quella là di far montare praticamente i carri e andare per l'ennesima volta contro il regolamento che lei stesso ha messo su carta. Non l'ha messo né il Consiglio Comunale, né i consiglieri, né il sindaco. L'ha messo lei. Lei ha messo su carta praticamente un regolamento. Un regolamento che dall'inizio, dal primo colpo, all'ultima parola è stato disatteso, completamente disatteso. Ora io dico, non le voglio dare nessuna colpa su questo, perché anche lei si è fatto trascinare dagli eventi. Però io le dico solamente questo qua. C'è quel bellissimo articolo, gliel'ho detto anche l'anno scorso, l'assessore, non è quest'anno, l'ho detto l'anno scorso, quell'articolo che dice chiunque non non darà seguito al regolamento così come sottoscritto già, sarà eliminato. Allora, assessore, io questo qua glielo dico per lei. Spero che quest'anno sia l'ultimo anno che glielo dico. No, che gli dico quello là, che praticamente, perché il prossimo anno, caro assessore, il prossimo anno, se ci sarà lei, se ci sarò io, le dico una cosa, che io il prossimo anno poi mi comporterò però in altro modo, perché se lei stila un regolamento e quelle per tutti i gallisti firmano quel regolamento perché gliel'ha fatto firmare lei, va bene, non si può dire io non sapevo, o meglio dire la colpa è di Paolo Sandalo che mi ha fatto fare sti casi a così, perché poi hanno detto quello queste persone. E allora io sempre, per l'amicizia che ho nei suoi confronti, ho detto, io vorrei vedere se è stato l'assessore a dirvi di fare questa denuncia, ma ancora l'ha fatto nella stessa voce. Però l'assessore, quando l'assessore praticamente ha remunerato i gallisti senza applicare quello che è scritto nel regolamento, e allora io penso che l'assessore è colpevole tanto quanto i gallisti. Glielo posso fare una domanda, quindi la sua. No, per capire come la pensi soltanto. La sua posizione qual è? Quella di squalificare? No, la mia posizione è questa, che se lei è l'assessore, beh, si fa parola che dice lei, non parola che dicono gli altri, oppure ognuno fa di testa sua, perché qua parola che è successo è proprio questo. E lei continua a dire che questo qua si è verificato anche non solamente per il carnevale, questo qua si verifica praticamente ogni qualvolta cosa. Dice, secondo me, ma guarda, tu puoi usare, sì, va bene, facciamo, cioè ognuno praticamente è libero di fare parola che vuole, perché poi sa sempre che praticamente l'assessore gli mette praticamente i tappi dai pantaloni quando si presenta la cosa, e quindi continuano praticamente in questo modo. Io gradirei che lei diventi un pochettino, ma non si è presa coscienza che le dimensioni dei carri erano queste, la sua posizione qual è? Quella di squalificare tutti, lo dica francamente, se era lei assessore squalificare tutti i candidati, ma non dica assessore, lei lo sapeva prima, perché loro hanno dichiarato questo, che no, lei sapeva, non lo sa nessuno, perché proprio dei cantieri dove li costringiamo a lavorare è un derbalotto, è una sorpresa anche per loro quando non lo vediamo, perché hanno trasportato anche loro a mettere su. Scusate, la posso una cosa sola, secondo me, visto che abbiamo preso l'argomentazione carnevale, il carnevale di Palazzola Grete ha un problema fondamentale, serio di base, secondo me, che ai caristi mancano le strutture dove fare i cari. Poi se riusciamo a risolvere questo problema, poi si può parlare di tutto, ma prima bisogna risolvere questo problema, perché sì, è vero, da Cireale lo fanno, non lo fanno, ma da Cireale sono in grado, se piove, se non piove, di far uscire il carro e di ricoverarlo in 5 minuti presso le strutture, perché ce le hanno. Allora, secondo me, un impegno serio di un'amministrazione, anche che vuole lasciare un segno per il futuro, è quello di provvedere a trovare le strutture per questi caristi, e poi si può parlare di tutto. Questo secondo me è il problema di base del carnevale. Scusi, me la faccio notare che alla fine, dopo facendo l'assessore, mi si è vittima anche di messaggi subliminali. Poi vedete tutti, quindi, proiezioni del carnevale degli anni 80, degli anni 90, in cui si vedeva questa magnificenza di carnevale, in cui in una stessa serata, in una piazza ci consentiamo la possibilità di mettere due parchi, due orchestre, di portare gruppi internazionali. In quei tempi purtroppo andavano fatte le strutture, perché erano i tempi in cui queste cose si potevano fare. Oggi che ci troviamo con bilanci che sono così desiderati, allora o ci imbarchiamo nella scelta e nella coraggiosa, tutto quello che ci vuole, di fare il carnevale, o se no non ci rinunziamo, diciamo, non siamo nella posizione di poterlo fare, perché ci mancano le strutture, perché i capisti sono degli artisti, ma in quanto artisti di pazzia ce l'hanno tutti, e sostanzialmente le risorse sono quelle che sono. Quindi alla fine però c'è. Allora o decidiamo di farlo, ma farlo bene, o decidiamo di non farlo perché abbiamo alla base un problema fondamentale, che ci mancano le strutture, perché poi è questo. Alla fine poi ci mettono impegno i caristi, i ragazzi, chiamiamoli come vogliamo, si sacrificano, perché in effetti vederli e guardare il caro mentre si squaglia, mentre gli altri lunedì poi sono a ballare alla festa in maschera, dispiace, cioè piange il cuore. E allora mettiamoli in condizioni di farlo, ma di farlo bene. Oppure si taglia la testa al toro e dici: no, non siamo in grado di fare il carnevale in questo paese. Pazienza, punto. Cioè, questo è. Poi, tornando alla proposta, che siamo fra i tre, io, il consigliere Spada e il consigliere Giordina, che oggi non c'è, che abbiamo votato quella proposta, ma la proposta io oggi la rivoterei, perché sulla carta la proposta per me andava bene, cioè, bellissima, per carità, era un'esperienza nuova, era tutt'altra la proposta, non è quella poi che abbiamo avuto nei fatti la proposta. E quante volte io mi sono alzata in questo consiglio comunale e vi ho chiesto: cosa stiamo facendo per coinvolgere le scuole provinciali? Mutismo e rassegnazione. E poi i risultati sono stati quelli che sono stati. Quindi io non mi pento di aver votato la proposta, ripeto, e credo, posso parlare anche a nome del consigliere Spada e del consigliere Giardina, credo la rivoteremmo, ma bisogna poi dare esecuzione alle cose, non bisogna lasciarle sulla carta. Ma ripeto, per me il problema fondamentale del nostro carnevale è che mancano le strutture, e veramente invito questa amministrazione ad operarsi per lasciare anche un segno. Io la vedo in questo modo: dici, mancano le risorse, ma lì poi è il ruolo della visione politica, cercare di capire dove andare a recuperare le risorse. Questo è il problema del carnevale. Poi si può parlare di regolamenti, di proposte. Noi, infatti, a tal proposito, come proposta, abbiamo voluto fare come oggetto carnevale a progetto proposta interrogazione, anche per dare un nostro contributo, che non vuole entrare nel dettaglio della critica o quant'altro. Siccome più volte abbiamo detto, e visto che comunque lei ha portato al vaglio una proposta, che come ha detto il consigliere di Cidra, poi effettivamente sulla carta, anche il fatto che dare dovevano votare a turno, cioè parlandoci con franchezza, il fatto delle scuole provinciali, tutta come andata, io già si è detto abbastanza, non voglio entrare, però è bello anche dire che sulla carta c'è un discorso, poi nella realtà per diverse delle situazioni è successo quello che è successo. E siccome penso ci sia stata anche apertura da parte nostra, e più volte abbiamo detto anche noi, abbiamo cercato, lasciando depositato il consigliere Fancello, volevamo leggerle questa proposta interrogazione, che ripeto non vuole essere una critica o quant'altro, ma per poter dire anche la nostra visione, come anche noi vorremmo che si realizzasse questo carnevale, e qualora si possa instaurare, ma seriamente, ma già siamo nella gente da oggi, una collaborazione fattiva, che non rimanga la solita oppure la settimana prima a dire: senti, ti coinvolgo, perché così non si va da nessuna parte, è sempre anche una presa in giro nei nostri confronti. Quindi, Presidente, se mi ha facoltà, volevo leggere questa oggetto carnevale progetto proposta interrogazione. Sono fugaci riferimenti alle sezioni di quest'anno, un grande no comment e rinnovo una proposta preceduta da una breve premessa legata alla storia della manifestazione. Uno studioso del carnevale palazzolese conferma le origini remote della manifestazione legata ad una antica e singolare processione durante la festa della Madonna di Giglia, nel corso della quale le non patente veramente, donne mascherate avvolte in ampi mantelli che leggo che rompevano in mezzo alla processione, sconvolgendo con il loro procedere al passo di musica trascinante e ritmi di danza. Voglio fare questa premessa perché capisce realmente, si parla di carnevale o quant'altro, ma partendo proprio dalle origini, come nasce, non si può capire anche la particolare rilevanza e importanza che assume per noi proprio palazzolesi il carnevale, ed è sempre stato un aspetto veramente la spensieratezza che ha coinvolto tutta la cittadinanza, che è stata la storia, possiamo dire, principale, ed è che ancora quante carri erano un po' così, nella storia della legge. E nel 1900 le mani sapienti degli artigiani arricchirono la manifestazione con la realizzazione di cubi su carretti che percorrevano le vie della città, tutte in festa, quasi a significare che nessuno può restare indenne dall'allegria e dal divertimento, a conferma che la tradizione del carnevale di Levante risale nel tempo. A partire dalla seconda metà del secolo scorso, il carnevale ebbe un periodo di particolare fervore, grazie ad un grande personaggio, animatore principale delle manifestazioni, estroso, geniale, imprevedibile, irriverente e senza freni nel prendere di mira personaggi locali, politici, clero, società civile. Il maestro Tullio Pizza, a cui questa città dovrebbe intitolare una mia opera, non c'è, non era parlato nella scorsa con l'assessore. nominati convegni di studio nel campo del carnevale. Personaggi ironici di Sideranti, i suoi, in cui il nostro si incalava ad attore principale. La sua arte e la genialità innata trovarono sbocco nella costruzione di carri con allegoria sempre rinnovata e nella realizzazione di splendide maschere. Un traino per le altre maestranze. Attorno a lui un numero di giovani allievi, coi forti scherzi, ma anche i sapienti insegnamenti nel lungo percorso di realizzazione delle opere. Con Vincenzo Guglielmino, scienziato, si arriva a un carnevale più moderno. Pur legato rigidamente alla tradizione, una tecnica più raffinata, maggiori proporzioni delle forme, trattate, giochi e movimenti meccanici sempre più elaborati, ricerca e trasposizione di altre esperienze, il tutto realizzato con il prodotto di base, la carta vesta a colpire le strutture rigide e trasferito in mirabili carri incoronati lungo il percorso cittadino. Vero è che il carnevale nel corso degli anni ha subito varie crisi, attribuibili a fattori diversi, non certo a carenza di maestria dei costruttori, fedeli nel trasmettere l'arte raffinata e nel mantenere viva e aggiornata la storia del paese da rinviare di generazione in generazione. Il momento di crisi, a leggere la cronaca della storia recente, fu intuito dal suo predecessore che giustamente dichiarava necessario il manager del turismo a dirigere l'intero settore e in questo necessario far risorgere il carnevale in crisi. Lungimiranza contro improvvisazione, non se ne fece nulla purtroppo. Dalla premessa ora dico una proposta. Il programma elettorale di Cittadini Attivi sostiene una proposta per il carnevale. Una proposta da tenere agli atti di questo comune, infatti anche la consigliera Mangello mi pare che più volte ha depositato, formalizzata anni fa da un gruppo politico che per la verità la riprendeva da un'idea espressa durante un incontro con i carissi dal precedente sindaco e poi intelligentemente sviluppato dal gruppo. La conferma da parte nostra è stata avanzata in questo consiglio in più occasioni. La premessa è quella di un intervento radicale considerato il decadimento progressivo registrato da alcuni anni, consolidato nell'ultima edizione. Un intervento che prenda atto delle mascelle di un carnevale così com'è improduttivo. Un'inversione di rotta con una proposta innovativa, coraggiosa nel ripartire da zero, con l'obiettivo del ripristino e del mantenimento di tradizione e qualità. Alla base della proposta è il fattore umano, senza il quale si rende inutile qualsiasi progetto collettivo. Un carnevale di tutti, requisito per acquistare e consolidare fiducia reciproca tra le parti. Amministrazione, caristi, commercianti, operatori turistici, forze politiche e sociali. Per raggiungere tale obiettivo occorre, a nostro avviso, un progettista, un direttore artistico o un manager esperto e un comitato di varia estrazione impegnato a disegnare e curare in anticipo un nuovo carnevale. Sulla base del budget disponibile, un carnevale possibile, frutto di analisi e di valutazioni che dà in possesso del contributo spontaneo da studiosi ed esperti che in paese non mancano e dell'esperienza acquisita dalle parti in anni di attività. Cogliere con sapienza e nel rispetto quanto di positivo o di buono può essere tratto dal passato. Scelto il tipo di carnevale, occorre affrontare un nuovo progetto, un contenitore in cui collocare le attività migliori funzionando il nostro carnevale. Un progetto rispettoso del budget a disposizione che definisca gli obiettivi di qualità che tramite esso si devono chiedere e pretendere dai partecipanti alle varie attività. Un progetto fatto con il contributo di idee, esperienze e competenza, coerente agli obiettivi qualitativi, la cui realizzazione sia tracciabile lungo tutto il suo iter, verificabile in qualsiasi momento, e in attuazione dei termini contrattuali, dall'amministrazione per suo conto, dal direttore, progettista e dal comitato. Varie fasi di controllo e di verifiche d'avanzamento lavori, singoli progetti, carri, gruppi, mascherate, attività collaterali, lasciate l'iniziativa e fantasia degli operatori, ma seguiti, sostenuti e indirizzati tecnicamente nell'ambito dei contenuti e limiti fissati al nuovo progetto. Le parti sottoscriverebbero un vero e proprio contratto, come qualsiasi altro da committente ed esecutore, con garanzie di rispetto di impegni, basati sul reciproco rispetto, tempi di esecuzione e spettanze economiche garantite nei tempi previsti, nonché qualità e coinvolgimento pieno, un numero di carri ben definito, tutti di qualità, non sottoposti per uno o due anni al concorso, col fine di dare fiducia e stimoli ai costruttori legati nel caso al solo rispetto degli impegni. Raggiunto l'obiettivo negli anni successivi si possono percorrere altre strade, compresa quella del concorso. La proposta della forza ai principi di qualità richiesta da un carnevale storico favorisce la trasparenza e la razionalità della spesa e denaro pubblico, soddisfa la normativa fiscale. L'idea del banco del turismo è da riprendere, l'idea del direttore artistico può essere considerata una sua concreta derivazione ed una sua anticipazione. La proposta in conclusione ha un percorso preciso, garanzia di qualità, spesa del denaro pubblico trasparente al massimo, coinvolgimento di quanti interessati con condivisione delle responsabilità, niente più può essere lasciato all'improvvisazione. Il turismo rifugia dalla pratica della streaming. A fronte degli esiti della recente edizione carnevale e della necessità di favorire sul tema una forma di progettazione e di programmazione dell'evento, si chiede alla signoria vostra se intende procedere in tempo utile da subito per il prossimo carnevale, a gettare le basi per la rinascita del carnevale palazzolese, se per tal fine è sua intenzione aprire una collaborazione a tutta la cittadinanza, evitando pregiudizi legati all'appartenenza e all'identificazione dei soggetti capaci di esperti, storie locali e tradizioni in grado di consentire una svolta decisiva al carnevale, sia alla luce dei risultati favorevoli a promuovere i compiti con esperti mirati all'esame delle proposte pervenute e da ricevere con l'obiettivo di definire un macro progetto in cui sviluppare la forza e l'esperienza positiva della storia del carnevale palazzolese. Ci tenevamo a precisare che la presente volutamente non vuole infierire sugli errori e sulle responsabilità legate agli stessi, tra cui quelle politiche che sono di sua competenza. Come le altre interrogazioni, intende porre una proposta con l'obiettivo e l'interesse generale che ha bisogno solo della volontà politica per essere realizzato. Questo è il nostro progetto, qualora ci si possa confrontare, ma da subito, non aspettando l'ultima settimana, magari arrivando in consiglio con una proposta una settimana prima. Poi, anche per le elezioni, non credo non tanto con niente. No, non è più un concorso selezionato bene, è un concorso a premi, ma è una situazione ben definita che tu stabilisci. Cosa si deve fare, come si deve fare. Stiamo parlando del carnevale, non carnevale, della sfilata. Carnevale, non della sfilata dei carri, è questo che poi si deve andare a fare. Se non c'hai i carri, la sfilata non la puoi fare. Ma come non ha niente? Ma un piano che tu vai a stabilire, non abbiamo parlato né di concorso, ma abbiamo parlato che tu vai a commissionare determinati carri, vai a parlare che è un macro progetto. In maniera generale, ma queste sono una proposta, perché scusa, è un modo diverso di come tu finora sei stata coinvolta nel carnevale. Fare un piano della viabilità, dimmi come va fatto, quella è una proposta. Ma che stiamo dicendo come va fatto? Intanto bisogna tutta la concertazione tra le varie parti in maniera seria ed efficace, cosa che è mancata, perché non si può pretendere che poi dentro si amministra tipo la stanza dei bottoni e poi fuori si subisce. Questo è sbagliato, forse appunto con il nuovo bilancio che abbiamo approvato questa idea si deve levare, ma già da tempo. Se no rimarremo veramente noi qui un palazzo chiuso e la gente fuori, prima cosa. Bisogna coinvolgere tutti, dalle associazioni, di categorie e quant'altro, ma questa è alla base, ma ci deve lavorare da subito, cosa non è stata fatta. Consentimi, fino ad oggi è mancato pure. Può essere anche un modo per trovare un modo per poter accantonare dei fondi anche per quel discorso dei capannoni, perché magari se c'è il concorso una parte della somma destinata la possiamo accantonare. Ma sono alla base di tutto, perché noi organizziamo la sfilata se poi non siamo in grado, se piove, di ricoverare il carro. Quella è la base di quello. La ricostruzione deve essere profonda, non può essere solo la sfilata. Pienamente poi riviste e soprattutto va poi condivisa in termini di fattibilità, perché è un'idea se cambiamo anche quasi più una proposta, quello che si vuole realizzare per fare un carnevale ci vuole anche qualcos'altro. E poi l'ultima interrogazione, aspetta, scusa. Se noi nell'andare a portare la proposta non avevamo o non abbiamo aperto il ragionamento del Consiglio Comunale, cioè è come se non avessimo voluto il confronto, è come se non vogliamo il confronto, cioè non mi pare che sia questa posizione. Io ti posso dire una cosa giusto così per essere chiaro, vogliamo fare degli incontri con la cittadinanza, sono disponibili. Programmiamo, ne vogliamo programmare 3, 4, quello che ne vuoi ritenente che possa essere il numero congruo per arrivare a questa ampia convergenza con la cittadinanza e con gli operatori. noi in qualche modo eravamo individuati e sono convinto che non è un metodo uno sbagliato, si parte da un gruppo che doveva essere rappresentativo, magari si poteva considerare meno rappresentativo, per una proposta che poi non va discussa in consiglio. Io sono proprio dell'idea che una proposta, se si vuole, si può anche tenere più tempo in commissione, la commissione regolamenti, una commissione congiunta per regolamenti e terza commissione, si può anche discutere in maniera più approfondita in consiglio, per poi arrivare a quello che ho una proposta concreta. Ora, voglio dire, non voglio entrare nel merito della vostra proposta, però se voi già partite dall'idea che quella è una proposta sulla quale si può ragionare, io potrei individuare 3-4 cose perché sono elementi di criticità sui quali bisogna riflettere. Perché quando mi parlate del manager, il manager come va individuato, come ne va remunerato, troviamo una figura che è disponibile a farlo in maniera gratuita, cioè sono tutta una serie di riflessioni che mi vengono in testa e che chiaramente si devono andare a misurare con quello che è la disponibilità economica. Quando parliamo, scusate, un'altra criticità, giusto per dire, ma non lo voglio fare a livello di che, lo voglio fare a livello di interrogativo, perché se superiamo una pessima ragionamento è chiaro che da questo punto noi possiamo anche parlare in maniera più libera, in maniera più, diciamo così, immediata. Quando nell'ambito di quella proposta, che io la scinderei da quello che era il programma, perché la fase elettorale è passata ormai, e di quella proposta ne si fa riferimento a un discorso di andare a contrattare con i legalisti sul tipo di carro, è chiaro che dobbiamo trovare una procedura che sia una procedura trasparente, perché la contrattazione può portare che a me piace Luca, mi faccio la contrattazione con lui, ma Luca in questo momento rappresenta se stesso in termini di carrista. Io dovrei avere di controparte un'associazione, dovrei avere un soggetto giuridicamente costituito, e allora da lì poi spiegare probabilmente dover chi contratto con Luca, soggetto giuridicamente costituito, e non con Antonio Siconte che è sul, diciamo, sulla piazza. Per questo in quella proposta il concetto di trasparenza va chiarito, eventualmente formulato nella maniera dopo, perché credo che più trasparente del concorso a premi non ce ne sono come formula in questo momento, che magari poi vanno scritte meglio le cose in quella che è la proposta che abbiamo votato, perché chiaramente quando poi ce l'avevamo in mano e abbiamo visto quello che c'era ci siamo resi conto della carenza della proposta. È chiaro che questo siamo convinti pure noi, ce ne siamo resi conto, dobbiamo un attimo le cose un pochino contestualizzarle e renderle pratiche. E quello che diceva il consigliere, l'architetto, abbiamo fatto importante, perché noi a carattere generale potremmo trovare anche dell'accordo, ma se poi non scendiamo nel particolare per come deve essere impostata la cosa, dico, si condivide il discorso che deve essere sulla piazza o non si condivide? Perché sulla base di quelli che sono stati anche i risultati potremmo anche rivedere. Guardate che siamo apertissimi nel confronto, io lo parlo in termini plurali, questa è una cosa che credo che condividono tutti, e già siamo apertissimi a parlare da subito. Qui però abbiamo un altro problema che è una cosa non trascurabile: qual è il budget? Perché io praticamente da assessore al bilancio non lo so più qual è il budget, e purtroppo a questa persona, a chi è che opera, io purtroppo il budget non riesco a garantirlo con un largo anticipo, proprio perché manifestazione che va all'inizio dell'anno, si proietta su un anno in cui ci sono sempre delle novità. Abbiamo, diciamo così, tra virgolette, azzardato fino a questo momento, ma a questo punto pure noi, pure io in primo luogo, sono quello a dire, tipo, forse questo budget non è più proponibile. Quindi anche su questo è importante che facciamo un elemento di riflessione intensiva, senza alla fine, perché non ci possono essere quelle delle novità. Dico, se riusciamo a avere una maggiore convergenza di operatori, se riusciamo ad avere un maggiore numero di sponsor, è chiaro che il budget poi può leggermente crescere. Io sono però secondo me anche per esempio se già i caristi non devono affrontare la spesa iniziale che può essere l'affitto del capannone, non per tornare sempre a quello che ho detto prima, però già è una spesa che non devono affrontare e quindi magari si possono accontentare di un budget minore. Cioè, questo dobbiamo partire dall'esistente, non possiamo fare una proposta su ciò che non esiste. Però è quello il problema del carnevale, secondo me. Intanto io ringrazio l'apertura, poi questi saranno vari step dove penso che sia necessario. Però neanche da parte nostra, perché mi pare che la. Abbiamo detto lo stesso. Noi ci siamo, vogliamo, ma anche l'anno scorso, però sapete cosa succedeva? Che poi 10 giorni, 15 giorni prima, ma ormai che cosa dovevamo. Cioè se dove dovevamo incidere? Anche in iniziativa ormai. E se lo sarà chiesto perché il regolamento viene pubblicato con un grandissimo ritardo e non viene pubblicato ad esempio nel mese di luglio, nel mese di settembre, come dovrebbe essere quindi, per un nuovo corso del genere. Sì, vabbè, ma le voglio dire. Sì, ma io da sola, voglio dire. Sì, io ci sono. Una situazione di estrema ma io sono d'accordo. Incertezza. Incertezza, la mia parte uno non deve andare sempre, non è che deve fare chissà quali, anche perché i bilanci non saranno neanche solo veramente farlo ci deve andare a fare questa manifestazione. Come si spera, per questo dico il comune dovrebbe coinvolgere anche un pochettino, dico come gestione, quasi quasi darla veramente anche in tempo. Assicuro certificate questo. Documentate almeno 15-16 incontri, che poi alla fine risultato che ci siamo un po' utili, un pochino, come dire. Anche perché deve cambiare la mentalità sociale, la cittadinanza. La discussione da due volte e dire, vabbè, con il sempre con la prima associazione delle. Io sono d'accordo, io non voglio scendere a sessione dettagli, però gli operatori o quant'altro, voglio dire, il carnevale rientro oltre alla nostra, ma anche per loro, non è indifferente. Quindi se vogliamo tutti contribuire, si deve far capire che il comune non è, voglio dire, non ci sono più le possibilità, la gente bisogna far capire e mettere davanti la situazione reale, quella che è, o preferiscono essere poi veramente aumentando qualità. Bisogna vedere sempre. Per sua soddisfazione, la prego, andiamo tutti insieme all'ufficio turistico, le faccio vedere gli elenchi di lettere mandate. Ma centinaia di lettere, non date più poche, consegnate a prendere in mano perché non si dica, non l'abbiamo ricevuto, non abbiamo letto l'email, proprio consegnate esercizio per esercizio. E allora bisognerebbe scelto la scelta come sciacca, veramente che hanno preso in certe situazioni. Allora, nella valutazione di questo carnevale, purtroppo in cui i fondi sono ristretti in maniera impressionante. Si è cercato di salvare la maestria dei carristi, perché non ce lo neghiamo, quest'anno c'era un concorso a premio, 5 gruppi in maschera, ne abbiamo poco di iscritti, soltanto 4. Quindi alla fine ti rendi conto che non è nemmeno un problema di fondi, ti rendi conto che è proprio vero, un momento storico in cui non si riesce più a seguire, cioè non si riesce ad avere l'entusiasmo giusto per fare il. Io voglio dire, prendendo la posizione estrema, dico, il carnevale come ce lo ricordiamo noi e quando si fa tutte queste cose sono nostalgiche, purtroppo è morto, ma non ora, allora con 15 anni che è morto. Il disastro oggi è che non ce ne possiamo permettere nemmeno uno di apparenza, perché se ci fosse più disponibilità economica, ovviamente una sfilata, saremmo riusciti ad arricchirla con gruppi folcloristici, con bande di strada, saremmo riusciti a farlo, ma con questa carenza in cui abbiamo difficoltà a fare l'ambulanza, perché credo che sia essenziale, alla fine che tu hai, ti trovi con le spalle al muro, per cui si cerca di lavorare con quello in cui ancora non riusciamo ad esprimerci, che sono i carichi. No, ma infatti questa proposta è proprio quello, cerchiamo di alleggerire anche la parte proprio della proposta, dobbiamo dire, io l'apprezzo. Vedo che sia effettivamente si debba scendere allo specifico, ma che ci sia già un interesse, che qualcuno si muova, qualcuno dica come facciamo il carnevale, già io credo che sia una cosa positiva. Certo il problema dell'incertezza ve lo pongo, perché è giusto, quindi una manifestazione di questo genere non si può programmare, se tu il bando lo devi fare 6 mesi prima, perché se no sei sempre in estrema difficoltà e il bilancio non ce lo consente di fare il bando, quindi siamo sempre con queste difficoltà. Io dico, possiamo fare la cioè poi scende il dettaglio, non c'è l'incontro, c'è l'apertura, ma da, cioè, ci iniziamo a confrontare con tutti anche gli aspetti, i dubbi o quant'altro, e così si va, cerca, ma è anche una, un valore aggiunto che cioè, posso leggere anche per voi, avere gente che collabora. Comunque io ho un'interrogazione da lei per quanto riguarda gli affitti, quel famoso discorso relativo all'espettiva. dialettica del verbale. Aspetta, la leggo, faccio. Allora, interrogazione sindaco come garante artistico, ho precisato alcuni aspetti umani. In seguito alle affermazioni del sindaco nell'ultimo consiglio comunale, circa il fatto che si fa garante per alcuni affitti di abitazioni private nei confronti dei relativi proprietari, si richiede con la presente di conoscere per iscritto quanto segue. Il numero degli affitti per cui il sindaco si è investito della carica di garante degli affitti, le modalità con cui viene messa in atto dal sindaco questa forma ratifica di garanzia, a quanto ammonta in media la cifra per cui il sindaco a titolo personale si pone quale garante degli affitti, quali misure adotta nei confronti dei... Parliamo del sindaco. Cioè, ma parliamo del sindaco, ma stai parlando tu in maniera privata, senti, e dici io sono io. No, no, io non sono io. Ma scusa un attimo, ma no, però senti, se è tagliato da cittadino, ma allora quando risponderà chiarirà che l'ha fatto da cittadino e non da sindaco. Ma lo scriverà lui questa cosa. Scusa, mi è importante che sia. Non sindaco non può essere privato. Ma non lo perché lei è sempre in qualità, io sono da prima non in qualità in funzione. Ma io non lo farei mai cioè se non vogliamo fare. E non siamo politici di alto livello. No, siamo. Non è una critica, sono delle chiedeste ognuno di noi ogni anno, quando la presenza facciamo e perché la facciamo. Cioè, siccome in quel discorso relativo sono fatte determinate affermazioni, bene, lui può dire benissimo, io l'ho fatto in maniera personale, non c'entra niente con la carica che anche in base alla. Andava integrato in un'ottica diversa quando mi ha fatto il discorso per quanto riguarda questa benedetta storia che aveva consenti, mi dicevano anche il garantismo che riservate è stato personale lì, ma lei è in qualità di assessore, ha dato il bando, cioè non può lì la situazione, lei ha dato il bando, se lei mi ha detto che non somiglia al buon giorno di tanto, ma sono dopo alla fine ma sì, la può benissimo rispondere in qualità, sono fatti i miei compiti, lo può dire in qualità, anche perché sappiamo cosa avviene, c'è la gente dietro, non penso che viene contattato, qui vediamo come quello che succede. Il sindaco ha l'intelligenza per farlo. Ma infatti io ho scritto come sindaco. Non c'è un libro basso, è questo che può pensare, non c'è un libro basso. No, si vuole dire sapere come il sindaco interviene a garanzia delle proprietà delle abitazioni, ma stiamo parlando sempre sindaco con la simbolica. Affittata a gente di cui egli ha fatto da garante nel caso di morosità nel pagamento dei canoni di locazione di eventuali danni alle abitazioni commesse dai conduttori che hanno il sindaco. Siccome gli ha fatto delle affermazioni, poteva anche benissimo come cittadino dire, poteva anche mettere. Quindi sarà lui a rispondere e a dire io ho rispondere nessun altro, risponderò io. No, ma per carità, io non dico che lei deve far rispondere perché con il bene nel male sono sicura che lei almeno dalla. Nei vari anni ha sempre risposto in maniera personale, su questo penso ci sia stato un rapporto di onestà intellettuale sempre con lo scontro incontro all'interno del consiglio, come giusto che sia la sede giusta. Non abbiamo mai detto cose, ce le siamo dette sempre in faccia. Quindi, e poi una curiosità, visto che lei c'è stato prima Cappellani aveva rimosso il fatto ancora da tempo alla delega, al settore all'urbanistica, come mai questo, è una curiosità questo poi ritorno di delega, cioè prima dato delega all'urbanistica, la scelta. Solo questo, una curiosità. Preferisco che il ruolo tecnico dell'assessore sia speso nel servizio di quelli a capo, quindi con la problematica delle spese energetiche. Tra l'altro questa cosa sempre legge il passaggio delle deleghe è molto enfatizzato, perché penso, ma sono convinto che sì, la competenza tecnica in questo momento è altrettanto necessaria come lo era la frequenza. Quindi non volevo sovraccaricare l'assessore. Siccome poi tutti i sindaci ci sorbiamo un pochino con le funzioni anche degli assessori, è chiaro il sindaco a questo punto è quella figura che va a sommare tutte quelle tecniche che richiede di non dover sovraccaricare nessun assessore. Ma questo purtroppo chi è che si candida a sindaco e poi viene eletto non è perfettamente consapevole. Non è consapevole del fatto che magari poi durante il mandato ottengono degli stravolgimenti che non erano previsti all'inizio. Posso... Ma questa sola, a proposito della storia del carnevale, Io volevo dire questo, quella che è stata presentata oggi, che non è una proposta nuova perché è stata già presentata credo almeno un paio di volte, io la volta scorsa prima di uscire l'ho depositata, comunque l'ho lasciata e poi l'ha depositata il consigliere Spada, è una traccia di un'idea che noi stiamo proponendo al consiglio. Poi è chiaro che, come dice il sindaco, può avere delle criticità, può anche rivelarsi irrealizzabile totalmente, però è chiaro che è uno spunto che noi stiamo dando al consiglio, anche perché il sindaco stesso in un manifesto diceva che noi protestiamo ma non diamo proposte. Noi questa proposta l'abbiamo già data da tempo, oggi la stiamo riproponendo. Quindi cosa si possono dire, interpretare cosa io ho detto, ma se noi abbiamo portato una proposta non si può rispondere con una controproposta. Però questa proposta, questa proposta a noi è stata data occasione di proporla quando già le cose erano fatte, cioè è questo. Io l'assessore lo sa, quando c'è la possibilità di lavorare insieme, di collaborare nelle piccole cose, i risultati a volte sono anche buoni e sono anche soddisfacenti. Quindi a me sta bene che c'è l'apertura, che c'è. No, no, e infatti per quello io non capisco perché per alcune cose possiamo farlo, per altre invece viene così difficile. Cioè, nel rispetto dei ruoli, voglio dire, viene fuori nell'amministrazione con una proposta che porta in consiglio, una proposta aperta, non era una proposta blindata o lavorata, una proposta aperta. Io non posso, ma io le rappresentanze dell'amministrazione, il consigliere, l'assessore, non possiamo sostanzialmente recepire una controproposta senza che siete nel merito e tanto nella proposta, dove ha lavorato non solo l'amministrazione, ma ha lavorato anche un gruppo di operatori economici. Questo era il senso della discussione. Poi dico, se noi azzeriamo tutto e diciamo partiamo dalla nostra proposta, è un altro ragionamento. Questo è il senso del discorso. Va bene, no, comunque anch'io apprezzo l'apertura. Va bene, grazie. No, una cosa sola, è una segnalazione che devo fare velocemente. No, perché non so se è necessario. Allora, l'altro giorno hanno portato i bambini della scuola materna in visita al mulino. Bene, in quella circostanza ci siamo resi conto che mancavano i servizi igienici. Ora, se il mulino è inserito in un percorso turistico o di gita che si provveda, io credo sia gestito da un'associazione, non so, però se il comune lo può segnalare, perché le maestre, i bambini hanno avuto difficoltà. Ci sono un sacco di problemi, e ci sono un'associazione, cioè le maestre stesse sono dovute andare fuori nel così com'è, perché le prime in giro sia su per normale, perché ovviamente è incontaminata, sia sulla struttura proprio del mulino, che non prevede la realizzazione di un servizio di giro. È ovvio che questa cosa non la posso fare, anche a me, fra i bambini che hanno accompagnato c'era anche mia figlia, però vi devo dire che il problema non è che sia che ci vuole vivere una situazione di quel genere, per un bambino che va comunque nella situazione, voglio dire, non stiamo portando migliaia di persone, è un bene che va rispettato, come a Pompei, proprio in una zona dell'area geologica e non c'è il servizio di genere, ti devi fare 4 chilometri per andare a fare più video, non serve. Esatto, e quello è. Ma quando non era neanche questo, alla fine non vedete che il bene così non com'è, e non penso che sia facilmente risolvibile, ma in ogni caso non è un problema nostro, è un problema della situazione. E infatti sto dicendo, non so, però magari se si può segnalare il sistema, che sia un zio che fa potenziale sicuramente cioè. Sì, allora se non ci sono altri interventi teniamo questa direttiva e andiamo all'argomento numero 6. Presa d'atto del regolamento distrettuale alla gestione del destino di nido, micro nido e servizi integrativi. Consigliere Simona, è una presa d'atto che è passata in commissione, in una commissione abbiamo letto il regolamento, certamente c'è un regolamento fatto dal distretto 41, la commissione ha preso atto di questo regolamento, anche se c'è alcune perplessità. Due punti volevo vedere Allora io non mi sono sbagliato nella mia, nel mio intervento fatto in commissione, che qualcuno mi diceva che non era così. No, è come, è così. Presidente, qual è il problema di tutto sto, di quest'altro regolamento stilato per il, per gli asili nido? Il problema è uno solo. Mentre l'assessore Corradino diceva in commissione che non c'era nessun problema e che ad avere praticamente possesso, diciamo, dell'asilo è il comune di Palazzolo, io ho detto no, non è il comune di Palazzolo, ma è il distretto sociosanitario. Quindi se praticamente arriva la famiglia di Bucchetti, che per motivi X, marito e moglie lavorano a Palazzolo, possono portare il proprio figlio all'asilo nido di Palazzolo. No, no, è stato detto in commissione che praticamente prima erano i palazzolesi ad usufruirne, no, e dopo erano, questo l'ha detto l'assessore, l'ha detto l'assessore, io ho detto che non era così. Ecco perché, presidente, le mie perplessità in questo regolamento, e io queste perplessità li voto praticamente contrarie anche stasera nel momento praticamente della lavoro. Questo è il regolamento. Vabbè, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione, votiamo sulla presa d'atto dell'emendamento distrettuale per la gestione degli asili nido, microlivi e servizi integrativi, che è d'accordo che si è seduto che non lo è, sia approvato. Argomento numero 7. Ordine del giorno per la discussione del provvedimento di urgenza per la sospensione di tutte le procedure eseguite al nostro Grazie. giustizia. Chi chiede di parlare? Sì, ieri sera c'è il consiglio, ma abbiamo parlato, solo parlo a nome del gruppo, penso, l'unità di vicino gruppo, e dico questo è veramente un ordine del giorno che dobbiamo con forza mantenere, perché andare a colpire la dignità di una persona, il sindaco di Vittoria ha preso spunto da quel muratore che per la prima casa, l'abitazione principale, per 10.000 euro di debito, che le banche poi sappiamo come svolgono il loro lavoro e poi lo danno anche ad alcune società, che ci sono famiglie che investono su queste società e cominciano ad avanzare oggi giorno per giorno, in questi 10.000 euro sono diventati 22, 23, 24.000 nell'arco di niente. Lo Stato ci permette tutto questo qua, e un uomo si uccide, andare si uccide perché gli stanno dietro la prima casa, questo è andare a colpire la dignità della persona. C'è una cosa che già lo Stato doveva fare prima. Ora mi sembra che ultimamente c'è la legge che più la prima casa si può colpire o non si può colpire, ma ancora non è tanto chiaro. Ma fino a pochi anni fa una persona acquistava la casa di abitazione principale perché era una società che poi si sparava i soldi a Bahamas, arrivava e si chiedeva il fallimento di quella società, e le persone rimangono. E ancora oggi, tutt'oggi, ci sono persone di Palazzolo che stanno subendo tutto questo. Per la prima casa, l'abitazione principale, dopo 20 anni che stanno là, si presenta una società perché la banca ha venduto le quote. Questo dobbiamo fare, questo è il nostro ruolo di consiglieri. Andare davanti a un tribunale e protestare queste cose. Protestare, perché io mi sembra che oggi i giudici fanno soltanto teoria, senza tenere conto di quello che è la dignità umana, la persona. Non mettono al centro l'uomo, no, sono infortunato perché io ho passato questa vicenda per circa 9 anni, consigliere Cappellani, circa 9 anni, capito? E quando sono arrivato in tribunale, faccio parlo per esperienza personale, gli ho detto a mia moglie, guarda, io lo so perché l'avvocato ha detto che abbiamo parteggiato, vabbè, diciamolo così, ma vuoi capire tu che cosa dice il giudice in 2 secondi? E la stessa cosa se l'ha messa trovata a casa, c'è lì. Visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete d'accordo? Avvocato, siete d'accordo? Sì. E questa si riduce alla dignità di una persona, 30 anni, 40 anni di lavoro, buttati così, solo perché c'è l'articolo 2, 3, 4 e 5. Questo, ecco perché mi infatuo, perché io l'ho passato, l'ho vissuto sulla mia pelle per 9 anni. E quando ieri è venuto un ragazzo e gli stanno togliendo la casa, non dico il nome perché non è giusto, e la stanno togliendo, perché la banca ha venduto le quote a una società che non si sa chi c'è pescato in queste società, che sono come le matriosche russe, fa male, brucia, e si porta la gente alla disperazione. Io come persona, come consigliere comunale, penso anche nel nome del gruppo, sì. Lo appoggiamo questo giorno, con forza, non votiamo sì, votiamo le poche, sì, devono sospendere, almeno per la prima casa. Sì, io condivido quanto detto dal consigliere Simone, e credo anche che sia proprio compito delle istituzioni a tutti i livelli trovare le misure per consentire una vita dignitosa ai cittadini. Questo poi si ripercuote un po' anche nei punti che abbiamo all'ordine del giorno stasera, perché più o meno vanno tutti su una questione di dignità della persona, questione di dignità del lavoro e su anche una questione della dignità umana, perché comunque bisogna consentire alla persona di non essere umiliata da queste azioni. Quindi credo che è compito veramente delle istituzioni attuare tutte le azioni possibili, anche la protesta fisica, andare lì quando serve per trovare un modo per evitare che si verifichino queste situazioni, perché comunque fa male certe cose, per questo. Per cui credo che non ci siano problemi per quanto riguarda il nostro gruppo a votare favorevolmente. No, peraltro volevo solamente così puntualizzare che la sospensione è prevista dal codice di procedura civile per 24 mesi, è solo che le banche o la Serit o Riscossione Sicilia, come la vogliamo chiamare, non la applica se tu non gli dai un consistente acconto a transazione, cioè praticamente devi pagare quasi la metà del debito e ti sospende la procedura per 24 mesi. Mi danno un'altra perché si potrebbe evitare, invece no. perché potrebbero applicarla semplicemente in attesa magari nei 24 mesi di fare poi un piano di rientro, una realizzazione, insomma, invece no. Te la sospendono, però bravo, se, bravo, cioè non è che tutti hanno 15.000 euro, capito? Io non so fare 15.000 euro in più, tra le sue finalità più alte e più dignitose. E allora, votiamo su questo ordine del giorno per l'adozione del provvedimento d'urgenza per sospensione di tutte le procedure esecutive immobiliari pendenti in tutti i tribunali della Repubblica, che è d'accordo resti seduto, che non lo è, sia anzi, approvato all'unanimità. Argomento numero 8, abolizione della norma misure urgenti in materia di esenzione IMU che introduce l'IMU sui terreni agricoli. Do la parola a cominciamo a scendere, scendiamo in Saracini, siamo a 500 metri, scendiamo ancora dove arriviamo, da questa parte all'altra parte, scendiamo su, c'è un po' fantasiose, c'è tecniche tutte, penso, perché che cosa ha fatto per il governo centrale? Ha messo la tassa in quadricola e ha tagliato subito ai comuni, ha fatto due calcoli, due conti, Palazzo Lagrena ha 10 ettari di terreno, deve prendere 50.000 euro, tagliamo subito 50.000 euro a Palazzo Lagrena. E siamo diventati parzialmente montani. Ma la tassa di Osa avrebbe fatto bene a presentarla e io voto favorevolmente all'abolizione della tassa. Chiediamo con forza, noi non possiamo né decidere né legiferare, però possiamo parlare, siamo cittadini dell'Italia, siamo cittadini di questo mondo e possiamo almeno parlare e dire come consiglieri a nome dei nostri concittadini, perché siamo delegati a farlo, dire effettivamente di abolire questa tassa. La tassa ingiusta colpisce anche le aziende, perché se io ho un pezzettino di terreno, l'azienda giustamente per fare azienda ha più terreno, e deve pagare l'IMU agricolo. Non solo, già siamo in un stato di crisi, dobbiamo aggiungere ancora altro al planeta a fuoco. Grazie. Io credo che l'IMU agricola rientri da quelle imposte che il governo in questi anni hanno usato introdurre per poter dire di averne tolte altre, perché poi è stato così con l'ICI, dall'ICI all'IMU, dall'IMU alla TASI e tutto il resto. Quindi è chiaro che in un momento di difficoltà in cui si danneggia, cioè in cui già il settore agricolo stenta, ci sono tanti altri problemi, andare in qualche modo a pesare ancora, a reperire su chi invece dovrebbe farsi risolvere in un certo senso, e credo sia una cosa particolarmente dannosa. Quello che volevo solamente sottolineare è il fatto che io apprezzo questa sensibilità, perché è un problema che è arrivato anche a noi, cioè è stato evidenziato anche a noi questa difficoltà, e mi dispiace solamente che questa sensibilità non ci sia stato quando si è discusso sulle aliquote della TASI, quando il gruppo di opposizione aveva proposto altre esenzioni per particolari tipi di attività produttive o particolari attività commerciali. Cioè, mi dispiace che questo suggerimento all'epoca non sia stato raccolto. Ora è chiaro che penso che avrete riscontrato anche voi le difficoltà non solo del settore agricolo, ma un po' di tutto il settore economico del territorio. Quindi mi auguro che questo sia l'inizio anche di una concezione diversa su questo aspetto, e quindi anche una prosecuzione di un certo tipo di attività con questo stesso tipo di sensibilità. Per quanto riguarda il voto, credo non ci siano problemi. Ringrazio il consigliere Faggiano, consigliere Russo, ne ha fatto. Sì, Presidente, grazie. Io volevo intervenire, naturalmente sono a favore dell'ordine del giorno, l'ho firmato. L'ho condiviso con il consigliere Rappo e altri consiglieri che l'hanno voluto firmare, perché appunto si è semplicemente raccolto quello che era l'input che è arrivato al territorio stesso. Il consigliere Rappo, che magari più addentrato, ha avuto modo di confrontarsi con le aziende del territorio, quindi non appena mi ha invitato a discutere sull'argomento mi ha trovato favorevole. Al di là di chi firma, ecco, volevo precisare questo passaggio, al di là di chi firma, che è un dato tecnico, l'ordine del giorno dico si consolida stasera. Raccolgo già il parere positivo da parte di tutti, quindi dico che questo sarà l'ordine del giorno di tutti, quindi è importante proprio che il Consiglio esca forte su argomenti come questi, argomenti che vanno a colpire il mondo agricolo, il mondo non solo agricolo ma anche il zootecnico, perché approfitto dell'argomento per introdurre un altro aspetto importante, che è quello della PGA. Anche su questo c'è attenzione da parte del Consiglio Comunale. Nei giorni scorsi, mi sembra la settimana scorsa, sempre il consigliere Rango insieme ad altri consiglieri si è fatto promotore di un incontro col mondo zootecnico. Sicuramente è un problema che proprio negli ultimi giorni, negli ultimi 10 giorni sta preoccupando seriamente le aziende zootecniche, soprattutto per i furti che ci sono stati nella nostra zona. Per questo abbiamo ritenuto opportuno anche in questo caso mobilitarci, fare un incontro pubblico a cui hanno partecipato molti allevatori ma anche molti rappresentanti delle istituzioni. Tra l'altro c'è stato un invito che è arrivato sempre dal mondo zootecnico, quindi da coloro che sono oggi colpiti, un invito ai sindaci a fare qualcosa. E devo dire che oggi lo dico, informo il consiglio in qualità di consigliere di assessore all'agricoltura prima dei comuni, che i sindaci tutti attraverso l'Unione hanno inviato una nota al prefetto di Siracusa per chiedere maggiore attenzione per il territorio. E dico che il prefetto si è subito attivato, ha già mandato, diciamo, una nota di riscontro impegnandosi a ricevere più presto i sindaci per discutere sulla sicurezza del territorio, che va oltre la BGA, perché tutti siamo al corrente di altri furti che sono in atto, diciamo, nelle zone del nostro territorio, quindi la cosa inizia a preoccupare un po' tutti. C'è un'azione da parte dei sindaci, c'è la disponibilità del prefetto. Io dico e invito già il consiglio da oggi a iniziare a pensare a un nuovo atto da fare con un consiglio, il nome dell'ordine del giorno che vada sempre in questa direzione, nel raccogliere il sentimento comune dell'opinione pubblica, ma anche nel dare forza all'azione dei sindaci, perché i sindaci in questo momento hanno bisogno dei consigli comunali che rappresentano la collettività, che li sostengono in questa azione che hanno intrapreso. Tra l'altro, sempre attraverso l'Unione e attraverso l'intesa dei sindaci, si è inviata anche una nota al direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale e al capo dell'unità operativa del Dipartimento Prevenzione Veterinaria per chiedere l'identificazione endoruminale dei bovini e degli ovini. Questo vuol dire iniziare ad applicare una legge che già esiste, ma a farla rispettare a tutti, affinché ci possa essere un maggiore monitoraggio dei capi residenti nelle nostre zone. Perché vedete, la vigiato da una parte ci preoccupa e preoccupa gli allevatori, perché colpisce le aziende, spesso li costringe alla chiusura, perché in momenti come questi è difficile ricostruirsi un'azienda, ma allo stesso tempo rappresenta un pericolo per la collettività e per i consumatori, perché giustamente dietro la vigiato si nasconde e si va ad alimentare anche quello che è il mercato nero, in un certo senso, delle carni, che poi arrivano nelle nostre tavole, quindi se non controllate, come si deve, possono rappresentare un rischio per la collettività e per il consumatore. Quindi ci sono queste due azioni in atto. Io le comunico proprio per fare in modo che già stasera, nel semplice fatto che vengano comunicate, diventano di comune conoscenza e quindi un'azione condivisa che presto ci possa vedere impegnate anche su questo fronte. Grazie. Così. Ma però consigliere Russo non ha risposto sulla domanda che aveva fatto il consigliere Fangiello: come mai su Tasi e Tari lei seduto lì tranquillamente ha provato i limiti del massimo? Per carità, no, lei, ma poi che avete detto? Scusate, penso che stiamo trattando secondo me per carità, serissimo, ci mancherebbe. No, semplicemente non volevo serissimo, ma mi sembra che anche la Tasi e la Tari sono due argomentazioni serie. Lì non si è sentito in dovere di fare un articolo nel giornale, lì si è sentito in dovere di approvare la liquida al massimo. E mi creda, anche questo. No, quasi al massimo, quasi al massimo, quasi al massimo, quasi 2, perché quasi al massimo, quasi al massimo. Abbiamo discusso a me. Vengo ad un dialogo corretto. A me non vorresti sottrarre, perché a parte che non penso che la domanda l'abbia rivolta a me, ma rivolta a tutto il consiglio. È stato un volere evitare di scendere nella polemica, visto che lei solleva la polemica in un momento di crisi. Non voglio sollevare la polemica. Io posso raccogliere l'invito, semplicemente per dirla che, a parte che non abbiamo, come diceva il consigliere Sicona, non abbiamo applicato la liquida massima. Lei sa bene che la liquida scaturisce dal ragionamento di pareggio dei conti, quindi è stato fatto l'affronto con i bilanci. Questa è una tassa che rappresenta una vera e propria patrimoniale, che va dal governo centrale, va a tassare, diciamo, chi produce nel territorio. Ma guardi che io non sto discutendo il merito di questa proposta, ben venga, cosa serve, per carità. Consigliere, se mi fa finire io... Prego, finisco. Deve terminare l'approccio, l'approccio è sempre lo stesso. Quando si è trattato di applicare i tributi di competenza di questa amministrazione, di questo comune, si è ragionato sempre con lo stesso principio di non gravare sui cittadini. Purtroppo le liquide che abbiamo individuato sono state quasi un obbligo da parte nostra per pareggiare i conti. Questo è stato più volte ripetuto. Non sono state tra le cose applicate le liquide massime, come lei dice. E il minimo viene già tolto dal quasi il massimo, 2,3. Parlando di tributo, quasi il massimo, è il massimo. Quando i comuni virtuosi non hanno proprio applicato nessun tipo di aliquota ai comuni virtuosi. Io penso di averle risposto, l'ha detto anche un consigliere dato di grande intelligenza e sensibilità, quindi ecco, non bisogna essere operati. Facciamo una discussione. Volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda il discorso dell'abbigiato che aveva sollevato il consiglio. consigliere Russo. Alla fine di questo consiglio vi lasceremo i numeri di telefono, perché vorremmo essere invitati la prossima volta che ci sono questi incontri. Io l'ho saputo, ma l'ho saputo per sbaglio, infatti ci siamo visti. Quando siamo invitati viene anche più semplice intervenire, portare un contributo e tutto il resto. Da abusivo è un po' più difficile. Poi insomma io ho visto anche. No, lo so, anche perché è un tema che penso interessa a tutti, per cui magari è stato un errore, non credo sia stato voluto. Poi è chiaro che io ho visto che un po' quell'incontro ha preso una direzione insomma un po' troppo in favore dell'unico deputato presente, che io mi auguro che tutto quello che ha detto si realizzi, perché ha promesso insomma grandi cose, per cui spero che tutto questo ci sia preso anche meriti probabilmente non suoi, come il finanziamento dei fondi antiracket, che lo finanziasse lui, però diciamo che fa parte del gioco, per cui lo accettiamo. L'unica raccomandazione è questa: la prossima volta, per favore, nell'interesse della cittadinanza, cerchiamo un po' di coinvolgerci tutti. Bene, grazie. Se non ci sono altri interventi, allora togliamo l'argomento numero 8, abolizione della norma di misure urgenti in materia di selezione IMU che introduce l'IMU sui terreni agricoli. Che è d'accordo che si sia tutto, che non lo è, si alzi. Approvato per la Giunta. Ultimo argomento è un ordine del giorno a sostegno della campagna per il reddito di dignità. È un ordine del giorno a firma del consigliere Francesco, a cui do volentieri la parola per trattare il tema. Grazie Presidente. Allora, io innanzitutto desidero ringraziare la rete associativa DIT di cui faccio parte e il consigliere del 13° municipio di Roma, Matteo Manetti, che mi hanno fornito le bozze da cui ho ricavato l'ordine del giorno. Si tratta di un documento abbastanza lungo di 5 pagine, di 4 pagine, non sbaglio, che non vi leggerò anche perché spero l'abbiate già fatto, ma che ho preferito presentare così senza sintesi per dare modo a tutti anche di fare un approfondimento nel caso ce ne fosse bisogno. Provo a fare una sintesi. Si parla di una campagna di 100 giorni per un reddito di dignità contro la povertà e la mafia. È una campagna che ha lanciato Libera insieme al gruppo ABERE, che è stato fondato da Don Giotti, e da seguito all'impegno storico di Libera per quanto riguarda la giustizia sociale, e anche all'interno di un'altra campagna da loro lanciata come lotta alla povertà, che si chiama Miseria Lava. Alla campagna ad oggi hanno già aderito 68.676 sostenitori sul sito della campagna, 169 parlamentari di diversa appartenenza, diverse realtà associative ed alcune organizzazioni politiche, oltre anche a un numero crescente di municipi. Al momento della presentazione avevamo solamente il comune di Licata, che attualmente è commissariato, quindi ha approvato tramite il commissario, e quello di Monte Rotondo, che è stato il primo che ha approvato attraverso la giunta, e poi c'è stata anche una presa d'atto del sindaco di Udine e, se non sbaglio, anche del presidente del Consiglio. Di che cosa si parla? Attualmente in Parlamento risultano depositate almeno un paio di proposte riguardanti il reddito minimo garantito o reddito di cittadinanza. Alcune vengono anche da raccolte firme fatte dai cittadini, penso che. Sì. Alcune vengono anche da raccolte firme fatte con l'aiuto dei cittadini, e qualcuno dei presenti penso se ne ricorderà. E ovviamente le proposte hanno delle differenze a seconda di chi la propone, ma bene o male seguono più o meno lo stesso schema. Si tratta di uno strumento che ha la finalità di assicurare a un individuo una vita libera, autonoma e dignitosa. Si rivolge a una particolare fascia di persone, si parla di chi ha un reddito inferiore a 8.000 euro annui, e prevede un percorso di presentazione di domanda al centro per l'impiego. Allo stesso tempo c'è un impegno ad accettare eventuali proposte di lavoro che però devono essere in linea con la propria formazione, con le esperienze passate e con le competenze. Si sente? Allo stato della proposta, perché poi comunque si può variare, consiste in un assegno mensile di 600 euro, che può essere rivalutato a seconda della variazione degli indici ISTAT. Ha la finalità di favorire l'inserimento e l'inserimento nel mondo del lavoro e di offrire una tutela contro l'esclusione sociale. Va concesso non alle famiglie ma ai singoli individui, perché ha la finalità di garantire anche la libertà dei percorsi di vita delle persone. E questo è nel senso di dare una spinta nuova per un nuovo modello di welfare, con un servizio anche di qualità e un impegno anche delle istituzioni a tutti i livelli. Vengo alla richiesta che si presenta al Consiglio stasera. Quello che noi chiediamo al Consiglio, ma anche ai destinatari dei libri, perché è indirizzato anche al Sindaco e alla Giunta, è di deliberare un'adesione a nome del Comune di Palazzola che è dall'appello lanciato da Libera, che chiede la calendarizzazione del provvedimento e quindi la sua approvazione. Questa adesione non ha dei costi per il Comune di Palazzola, ovviamente, ma comunque lo impegna a intraprendere determinate iniziative che siano legate alle tematiche di questa campagna. Quindi parliamo di legalità, parliamo di lotta alla criminalità, parliamo di promozione della coesione sociale. Questo ovviamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni, di sindacati, di movimenti tutti, e ovviamente si chiede anche la pubblicizzazione di tale adesione sul sito istituzionale e anche in mezzo stampa o con tutti i mezzi che insomma il Comune usa e utilizza. Grazie. Consigliere Sancello, su questa cosa parlo a nome personale, poi ognuno vota secondo coscienza, facciamo parlo come collega Rolfo. Bellissimo, bello, cioè questa è dignità, essere liberi, è vero, reddito di cittadinanza. L'altra volta leggevo un atto parlamentare che ho portato sulla stampa, non è un atto ufficiale. Si calcola che c'è una platea di circa 9 milioni di persone che possono raggiungere, si parte da un minimo, come ha detto lei poco fa, fino a 8.000 euro, cioè chi percepisce 5.000 euro ti dai 3.000 euro, cioè diviso per mese, chi non percepisce nulla 780 euro massimo al mese. Io mi chiedo, ma bene, da parte mia dico sì, cioè, va bene perché conosco alcune situazioni difficili in riferimento al mio lavoro, posso dire di sì. Però leggevo un'altra bella proposta che era quella del professor Tito Boeri, presidente dell'IPS, dove ha detto vi do una mano alla politica. Un reddito di cittadinanza serio si può partire da 55 anni in su, chi perde il lavoro è prossimo alla pensione. Sappiamo benissimo che a 57, 58, 60 anni non trovi più. Un'altra volta se non il tuo campo trovare lavoro, se la tua azienda ha perso il lavoro, se la tua azienda va indietro, tu perdi il lavoro a 60 anni, 61 anni, è molto difficile reintrodursi nel mondo del lavoro. C'è un'altra azienda 60 anni, 58, cioè non lo prende un ragazzo di 24, 25 formato, con la nuova mentalità, più veloce, e la legge del mercato, cioè, che questo fa male perché rende la dignità della persona. Infatti io mi ricordo sempre che i nostri, quelli più anziani erano un punto di riferimento, però quelli più consapevoli di dice, tendevamo dalle loro labbra. Oggi è finito che gli anziani sono spaesati, hanno detto fra poco usciremo anche noi, la mia classe uscirà fuori da questa nuova tecnologia, non ci arriviamo più per un fatto mentale, di stanchezza, eccetera, insomma. Il professor Tito Boeri riporta questa proposta che è stata accettata anche dal ministro del lavoro Poletti, è stata accolta, superiore a 55 anni, man mano che perde il lavoro, sia autonomo sia dipendente, si può entrare con un reddito di cittadinanza per dare dignità, perché in quella fase della vita è abbastanza delicata, parlavo anche di tutte queste cose psicologicamente. Guarda, io do il mio voto, parlo a mio nome personale perché è un fatto di dignità, è importante e non calpestare sempre la dignità umana come abbiamo detto sempre. Poi da parte di una mia formamente sindacale è logico che posso dire di sì. Però bisogna pensarci, che vengono anche lui, lo faranno mai. Chi ha i conti in mano, il Ministero del Tesoro, lo farà mai una platea di 9 milioni circa, leggevo sempre che su 5 miliardi di euro al mese, 60 miliardi di euro l'anno, 120 mila miliardi di quelle vecchie, a quanto finanziare l'affare? Sono questi che mi lasciano in dubbio. Consigliere Fanciullo, sì, l'iniziativa è importante, poi speriamo che trovino le fonti. Io però ho detto non parlano come capogruppo in questo momento, non c'è capogruppo, lascio ogni consigliere, no, lascio il consigliere, ognuno secondo coscienza, non si può. Ma io volevo aggiungere solo una cosa. Cioè, scusami, non volevo fare una dichiarazione di voto perché mi ero buttato. Volevo aggiungere solo una cosa, ovviamente per quanto riguarda coperture sul terreno, le coperture sono presenti all'interno delle proposte che hanno citato, c'è cioè, chi ha proposto il taglio delle spese militari per coprire il reddito, dai calcoli fatti ci arriverebbe. No, no, dico, cioè, non lo posso portare qui, diciamo questa cosa, però perché parliamo di semplicemente stimolare la discussione al Parlamento, visto che anche Renzi al momento dell'insediamento aveva detto che una delle cose da fare era introdurlo, o quantomeno discuterne. Questa volta sembra sia stato un po' dimenticato, hanno lanciato i primi giorni. Sì, lo so, hanno lanciato i primi giorni per dare una scadenza a questa cosa, quindi è chiaro che ci sono altre cose. Io parlavo di un nuovo modello di welfare, è chiaro che non si parla di una proposta sola, si parla di un insieme di riforme collegate, non parliamo solo di questo, perché sennò non avrebbe senso. Si parla anche di rispondere alla direttiva europea, perché l'Italia insieme alla Grecia è l'unica che ha dato seguito a questa cosa, altrimenti questa cosa funziona. Parliamo dei disoccupati. Il reddito serve anche per fornirgli la possibilità di riqualificarsi, serve per anche, mi pare, credo in tutte e due le proposte, in una sono sue e l'altra no, anche per integrare eventuali retribuzioni, perché ci sono persone che hanno 400 euro al mese, quindi almeno farli arrivare a una retribuzione degna, credo sia giusto. Grazie consigliere, mi auguro che l'applicabilità poi della normativa venga fatta in maniera trasparente e seria, e di questo io ho grande timore. Prego, consigliere Russo. Sì, sull'argomento devo dire che sicuramente è lodevole l'iniziativa del consigliere Francesco, che non può che vedermi favorevole all'ordine del giorno, anche in questo caso personalmente, perché ripeto, è qualcosa che magari riguarda ognuno di noi. Tuttavia le riflessioni del consigliere Sicona credo vadano nella giusta direzione. Nel senso, generalizzare su un sistema così complesso riesce difficile per ognuno di noi, perché oggi le difficoltà sono così tante che non possono essere racchiuse in una sola età anagrafica, in un solo contesto, in una sola professione. Oggi le difficoltà ci sono a livello italiano, ci sono a livello europeo, però come ogni argomento credo che ci venga proposto in consiglio comunale nella vita, ci trovo di fronte a una riflessione che è sia di merito che di metodo. Io voglio dire quindi che il sì di oggi è un sì alla proposta sotto l'aspetto del merito. È giusto che su temi di questi si inizi a parlare. Per quanto riguarda il metodo, credo che anche nelle parole del consigliere Frangelo si legga una volontà a voler animare il dibattito parlamentare. Quindi non possiamo augurarci che il Parlamento trovi la soluzione migliore e più idonea non solo dal punto di vista della copertura, ma anche la migliore corrispondenza col disagio sociale. Quindi mi trovo perfettamente in linea. Quindi è un sì al merito dell'argomento, anche perché al di là, diciamo, degli aspetti di disoccupazione che l'Europa sta vivendo, c'è l'aspetto importante di molti giovani che oggi vanno ad alimentare quella che è la criminalità organizzata. Se pensiamo ai molti servizi a cui assistiamo, un discorso di questo andrebbe secondo me a colpire anche questi sistemi, andrebbe a indebolire quello che è il sistema clientelare di cui oggi è vittima la nostra nazione, sono vittime molti paesi d'Europa. Quindi sì al principio, sì alla discussione, speriamo che in futuro possiamo avere maggiori argomentazioni per poterci pronunciare in merito. Grazie. Ringrazio il consigliere, ci sono altri interventi. Volevo ancora una volta ribadire la bellezza di fare consiglio comunale in questo modo, con l'attenzione a quelle che possono essere tutte le problematiche sociali. Questo, abbiamo detto sempre, è il luogo in cui ci si incontra e ci si confronta. Allora, allora alla votazione ordine del giorno a sostegno della campagna per il reddito di dignità, che è d'accordo resti seduto, che non lo è, anzi, approvato l'unanimità. Quindi gli argomenti, dichiaro chiusa la seduta, auguro a tutti. buon primo maggio, vediamo subito. Grazie. La cena è stasera, che ci vuole? Io devo mangiare. Aspetta.